come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Veramente Parenzo è ancora in vacanza da quello che mi risulta, in un rifugio, in un luogo lontano e isolato in Trentino, se non sbaglio, caro David, o no? Beh, isolato, sono a Serrada di Folgaria, nel cuore del Trentino Alto Adige. Ti hanno chiamato a un numero fisso e infatti il numero fisso funziona peggio dei numeri cellulari, come al solito, Mi senti bene? No, vabbè, continuiamo, per il momento andiamo avanti. Così, caro Parenzo, un'estate nel segno... Ma sai che mi sei mancato? Sì? Ma se quasi come mi mancavano le mie fidanzate quando all'epoca ancora... No, veramente ci siamo visti per 2-3 giorni, devo dire la verità. Troppo poco, non abbiamo combattuto le solite battaglie della zanzara. Va bene, io inizierei con qualcosa che ti è gradita, una serie di improperi lanciati quest'estate da Umberto Bossi, perché la realtà è questa: la politica italiana, tragicamente, drammaticamente, è appesa a un signore e alle sue, posso dirlo? Perché siamo alla zanzara, lo possiamo dire o no? Beh, secondo me si può dire tutto, è zona franca. Alle scoregge? Alle sue scoregge? Addirittura. Ogni tanto sono scoregge, spesso sono scoregge, magari sarà un grande pensatore politico, un grande uomo, un innovatore, uno che avrà fatto la storia dell'Italia, però ogni tanto scoreggia, Sai che significa scoreggia? Però fa bene, perché uno si libera l'intestino, no? Per esempio, c'è una parola che si chiama, una parola che usa spesso Bossi, che è stronzo. Ultimamente la usa spesso, non riesco a capire... Stronzo? Cioè, sì, stronzo. Vai via. A te cosa ha detto di recente? L'hai incontrato di recente davanti alla Camera, no? Federalismo fiscale, vai via. Devo chiamare la signora Barcegaio. Federalismo fiscale, vogliamo. Federalismo. Casini, stronzo, sentite. Le pensioni le abbiamo salvate. Nonostante quel che dice quello stronzo di Casini. Ho sentito stasera la televisione. Ho chiamato Berlusconi. Oh, la pensione non si tocca. Lasciate aperta la pensione. Beh, resta mitica in queste settimane quella Brunetta, poi pare che i due si siano chiariti, però queste cose, conoscendo Brunetta, caro Parenzo, restano, restano come segni indelebili nel rapporto tra i due. Certo, Tremonti e Brunetta si possono spiegare, però resta sempre un'incrinatura, resta sempre una differenza fondamentale. E questa volta io credo che tra Bossi e Brunetta la situazione sia difficilmente recuperabile, soprattutto dopo il naro veneziano non rompere i coglioni. Brunetta, nano di Venezia, non romperci i coglioni. A me dispiace che la Lega, qui abbiamo in collegamento un nostro amico, un europarlamentare della Lega Nord, che fra poco presenteremo, a me dispiace che si vada verso questa conclusione, non so se sarà una conclusione, forse no, comunque è verso su questo pendio un po' di gargarismi, fatto di gargarismi bossiani. No, è che, vedi, la differenza è che una volta Bossi, oltre a usare questo linguaggio colorito, faceva anche una politica che aveva un blocco sociale di riferimento. Oggi pare non ce l'abbia più, no? Quindi fa solo gargarismi. Io potrei definire la politica di recente della Lega e soprattutto alcune posizioni come una Lega che si è trasformata in una cosa un po' matricianesca, cioè di conservazione di piccoli potentati locali e nello stesso tempo su questa cosa delle pensioni che è francamente incomprensibile. Tutto il mondo, diciamo la verità, caro Parenzo, certo. Tutto il mondo ci chiede di portare immediatamente da domani l'età pensionabile allo stesso livello degli altri e in Italia, compreso il ministro Sacconi oggi, ti dicono no, è tutto a posto, le pensioni... Basta con questa tatanella. Va bene, Bossi su Alfano, bravo ragazzo, però poi gli fa una pernacchia. Alfano è un bravo ragazzo, però... Legnate i giornalisti, rompono le balle. Sono i giornalisti che intanto direbbe dei quattro legnati. Sono loro, hanno inventato di stare una grande manifestazione di centro sociale. C'è stato niente, è passata una macchina, ha fischiato col fischietto. Io sono andato via, lo avevo detto a Tremonda, non conviene stare qui assieme ai giornalisti che rompono le palle di secondo. Poi c'è anche Calderoli che si mette sul percorso tracciato da Bossi. Montezemolo scoreggia dell'umanità, è tra quelli che non lavorano mai, scoreggia dell'umanità, una cosa pazzesca. Di Montezemolo, quale scoreggia dell'umanità, che non hanno mai lavorato in vita loro. E noi siamo qui, oggi naturalmente c'è tanta carne al fuoco, soprattutto la questione libica. A proposito di Libia, stia lì, europarlamentare della Lega Nord, nostro amico, arriviamo subito da lei. A proposito di Libia, partiamo con la canzone libica che contraddistingue la Zanzara. Voglio un sottofondo forte, caro Parenzo, forte, fortissimo. Come si bella cavalla stu camello copino, l'altra con la turban di un archile. Quasi curioso mentre scava stu portu. Ma te lo ricordi il nostro amico La Russa, quello che ci ha sbattuto il telefono in faccia qualche mese fa? Come no, il ministro della difesa? Il mitico, mitico Ignazio La Russa. La Libia, civilissima come la Spagna, te lo ricordi? Una cosa mitica, 18 maggio 2009. L'archivio. Sentirebbe garantito se fosse uno straniero in Libia. Le lo chiedo proprio con la mano sul cuore. Si sentirebbe garantito dalla Libia di Gheddafi. Lei sta dicendo che la Libia di Gheddafi cosa fa agli stranieri? Che forse non rispetterebbe tutti i diritti civili. Io so che la Libia... No, se fosse la sua vita. In Libia ci sono stato mezza giornata soltanto l'altro giorno e ho visto un paese civile, comunque un paese assolutamente... assolutamente civile, a livello più avanzato rispetto a molti. Guardi, va benissimo, le ho chiesto solo se lei fosse, se fosse la sua vita e se fosse in Libia se si sentirebbe garantito. Sentirei meno garantito che in Italia, se vuole sentire questo, ma ugualmente garantito, forse come se fossi in Spagna. E questo già mi pare una cosa ragionevole. Tu ti rendi conto, queste cose bisogna sempre farle riascoltare. Sempre, paese sempre. Civilissimo. Certo, mi sentirei meno garantito rispetto all'Italia, però la Libia è come la Spagna a livello dei diritti umani. Questo affermò La Russa nel maggio del 2009. Poi naturalmente ci sono le posizioni del governo italiano. La nota democrazia libica. Il 30 di agosto del 2010 il ministro Frattini dice: Gheddafi è un leader importante per tutto il Medio Oriente e noi da questa opposizione non ci aspettiamo niente, rivolto alle critiche per la visita del leader libico Gheddafi a Roma. A questo proposito direi un Berlusconi su Gheddafi, tanto ce ne sono tanti, così per ascoltare. Ricordo che Berlusconi è passato dalla vicenda libica, dal non voglio disturbare, fino a oggi, quando si augura una soluzione, diciamo, in tribunale, cioè il governo italiano vuole che Gheddafi sia consegnato al Tribunale Penale Internazionale. Io ho avuto modo di incontrare più volte il leader e di legarmi a lui da una vera e profonda amicizia. Al leader riconosco una grande saggezza e riconosco che tutto ciò che lui... La grande saggezza di Gheddafi, questo Berlusconi, pochi mesi fa. Enrico Speroni, buonasera! Buonasera a tutti! Come si trova? Dove stai innanzitutto? In vacanza ancora? Vacanza nel senso che riprendo al Parlamento settimana ventura, sono a casa mia in questo momento. Dove? Dove si trova la sua magione? Busto Arsizio. Ah, Busto Arsizio, pensavo che avesse una casa in campagna, una casa al mare. No, sto qua. Busto Arsizio, beh certo. Posto terribile. Fa caldino oggi, 18 e 14. Caldino, infatti per la prima volta ho acceso il condizionatore. Bravo. Per la prima volta, notiziona direi, no? Ecco, prima notizia della Zanzara. C'è il signore Enrico Speroni, europarlamentare della Lega Nord, oggi ha acceso il condizionatore. Benissimo, iniziamo bene con grandi notizie. Senta, ma lei con Gheddafi cosa ci farebbe, signor Speroni, a questo punto? Perché le ipotesi, a parte che non si sa dov'è, potrebbe essere in Tunisia, potrebbe essere ancora asserragliato. Sembra che ci sia una decisione di portarlo davanti al tribunale dell'AIA, così come Karadzic, così come altri. Lei è d'accordo, c'è un criminale di guerra Gheddafi? Allora, se è un criminale di guerra, visto che dovrebbe esserci un processo, lo deciderà la Corte. Certo. Ecco, Ma l'opinione mia è che, visto le ultime, ma non solo quello, con Gheddafi a me non è mai piaciuto fin da quando ha cacciato in malo modo quelli che erano gli eredi dei coloni italiani quando ha preso il potere. Cioè, non è mai stato un vero democratico, anche se questo non c'è dubbio. Qualcuno non lo ricorda, ma l'ONU ha dato la presidenza della Commissione dei diritti umani alla Libia, sì, certo. Alla Libia, quindi c'è sempre una coerenza di fondo in tutta la politica internazionale. Diciamo Gheddafi, uno dice, ma è stato ricevuto con gli onori, eccetera. Beh, anche Milosevic, prima che finisse male, era osannato, era riverito come tutti i capi di Stato. Beh, anche voi andaste a in carica. Sono capi di Stato, poi che siano democratici o non democratici, non importa. Guardiamo come vengono ricevuti i rappresentanti del governo cinese, anche lì non è che certo c'è la democrazia spagnola. Ecco, ma lei come risolverebbe la questione Gheddafi? Sarebbe meglio l'esilio? Magari in Italia, qualcuno lo ha proposto anche oggi, qualche parlamentare. A Busto Arsizio lo vorrebbe? Possa vantare il diritto di asilo politico, forse glielo può dare Chavez. Ecco, ma glielo può dare a Chavez, dice lei, Chavez, sì. Potrebbe darglielo. Lo dice alla francese lei, Chavez, Chavez. Adesso bisogna vedere, Chavez, mi pare che sia un cognome di origine francese, ricordo l'aviatore. Speroni, lei è europarlamentare, non è che può fare questi errori, però. È caduto a Domodossola, poi come al solito quando un cognome da un paese si trasferisce a un altro, le pronunce. Allora, la sua pronuncia è Chavez. Dunque, diciamo, per te com'è la pronuncia? Per te com'è la pronuncia, Parenzo, scusami? Ma per me è Chavez. È Chavez, ma scusi, ma Speroni, lei è europarlamentare, Chavez alla francese, cognome di origine francese, ma chi l'ha detto? Secondo me è un cognome prettamente, come dire, iberico, se non iberico, anzi pure iberico è un errore, insomma sudamericano, venezuelano, Chavez, no Chavez alla francese. Lei dice che è di origine francese, ribadisce qui che è di origine francese. Io so che quell'aviatore che ha attraversato le Alpi, magari ha ragione lei, si chiamava Chavez, poi dopo è tutto un discorso, come a un certo punto anche noi diciamo Pierre Cardin, che è veneto, dovrebbe essere Cardin. Ma lei è sicuro che Pierre Cardin è veneto? Sì, è veneto, è verissimo. È verissimo, anche Parenzo è veneto, lo sa forse meglio di me. Poi appunto cambiano le cose sulle pronunce, non sto ovviamente a... Ciò non toglie che al di là, diciamo, del cognome, rimane il problema, che facciamo così al Gheddafi? Vabbè, un attimo solo, c'è il traffico, prima c'è il traffico, prima di Gheddafi. Andava a 100 all'ora per trovare la bimba mia, andava a 100 all'ora per cantare la serenata, blem, blem, blem, blem. Bene, questa è la Zanzara, 800 24 00 24, il sottoscritto Giuseppe Cruciani qui sulla plancia di comando in collegamento da non so dove in Trentino, La serrata di Folgaria, sì, se scusami, volete scusami. A farmi la pelle, sono qui. No, qualcuno oggi ti vorrà fare la pelle, ma più tardi, caro Parenzo, più tardi avremo uno scontro epico, uno scontro epico con un nostro interlocutore dei mesi scorsi che è tornato alla ribalta. Va bene, anche i messaggi, se volete, 349-238-6666. Beh, signor Speroni, ma quest'estate niente velocità con le macchine? Speroni? Ah no, pensavo stava parlando con Parenzo. No, Parenzo è lì, è no, sempre là. Ovviamente, ripeto, io corro solo in Germania e ci vado... No. Niente Germania? Eh no, di solito ci vado quando sto a Strasburgo e per ora il Parlamento è chiuso, riprenderò a settembre. Ma la velocità non si comanda comunque, magari con una puntatina pensavo l'avesse fatta, invece no, niente. Bravo. Ma è bravo, perché è bravo? Cioè... No, non è bravo, non voglio mai correre con la macchina, dai, che l'insegnamento. Vogliono mettere anche l'omicidio là, un nuovo reato, no? L'omicidio. Quello, secondo me, è più che giusto. Ci sarebbe già questa ipotesi di un delitto in conseguenza di un altro, no? È già previsto dal codice, però una fattispecie potrebbe essere una cosa opportuna, ecco. Quindi sono dell'idea di Maroni che si possa tranquillamente fare, perché uno che si mette la guida ubriaco sotto l'effetto di droghe già di per sé costituisce un pericolo. Cioè, un conto è uno che magari per distrazione non vede uno stop, un semaforo rosso, un conto è uno che coscientemente si mette alla guida sapendo di non essere in grado, proprio perché ha bevuto o si è drogato. Certo, però Speroni, anche andare per carità di notte in Germania dove si può, vabbè, è tutto legale, è, cioè anche andare a 300 all'ora non è che sia il massimo della sicurezza per gli altri che attraversano magari quella strada. Parliamo in quel momento di reati, non parliamo, no, ma quello è sicurezza, cioè sono due fattispecie diverse, cioè un conto quello che può essere l'imprudenza, roba del genere, sì. Ma lì, se a un certo punto il codice lo consenta, è diverso andare che ho sia... capito, ma è pericoloso o no andare a 300 all'ora per gli altri? Mi dica la verità, Speroni, su come? Questo. Per gli altri andare a 300 all'ora è pericoloso o no? Secondo me sì. Ma dipende se uno, cioè, no, non è assolutamente pericoloso, ripeto. Beh, già a 50 all'ora se uno investe un pedone sulle strisce lo ammazza. Cioè, quindi... andare a 50 all'ora può essere pericoloso come andare a 300, lei dice? No, è diverso ovviamente, però a 300 si va in autostrada, in città si dovrebbe andare a 50, ma già i 50 in città possono essere pericolosi, dipende appunto dalle circostanze. Vabbè, lei ha detto che più o meno andare a 50 o a 300, no, naturalmente... dipende, ripeto, dalla macchina, dalle condizioni, eccetera, quindi... è difficile star lì a stabilire una cosa, sono quelle presunzioni di legge, chiamiamole. Sì, comunque andare a 300 all'ora può, non, è, non, è, non è necessariamente pericoloso, questo è. Non è necessariamente pericoloso, ma certo, come? Il tasso di sicurezza con l'aumentare della velocità diminuisce, ma questo è una cosa normale. Questo ripeto, ma... Cioè, ma a lei è capitato per esempio di notte in Germania quando va a 300 all'ora di incrociare delle altre macchine come un missile così? Allora, incrociare... Superare superare quasi mai, perché cerco di avere la strada sgombra quando, sì, quando schiaccio l'acceleratore a certi limiti. Mi è capitato... Beh, incrociare ovviamente c'è in mezzo il guardrail, ecco, quindi... No, beh, incrociare, no, ho capito, cioè nel senso su, sulla stessa... Perché di solito quando vedo qualcuno rallento, cioè rallento. Lo faccio a quella velocità, mi tengo sempre qualche chilometro libero per lanciare. Lei Gheddafi dove lo vorrebbe allora, per tornare a bomba dalla velocità? Allora, vedo tante ipotesi. Appunto, la sua ipotesi, cioè quello che lei spera, cos'è? Di vederlo condannato da un tribunale? Tribunale dell'AIA. Al tribunale del... Lei come fra la pensa, come Frattini? Abbiamo visto proprio lì nel Nord Africa delle situazioni che hanno delle analogie e delle differenze. Ad esempio, il Ben Ali, quello della Tunisia, ha trovato asilo politico, insomma, rifugio, l'esilio, non so se in Qatar o da quali parti lì, no? Sì. Ecco. Il Mubarak invece adesso è sotto processo in Egitto perché non ha voluto scappare. Vabbè, tanto sta morendo. Non è che... Vabbè, quello diciamo... umanamente dispiace, ma dal punto di vista giudiziario, politico, non è che cambia assolutamente le cose. Gheddafi sa vedere, se non riesce a scappare, che lo pigliano, saranno i libici giustamente a processarlo. Se dovesse scappare, mi sembra una cosa ingiusta che qualcuno gli dia asilo, però vedo vorrebbe andare in Angola, ma l'Angola ci sono appena stato, mi pare che sia sulla strada della democrazia. Che è andato a fare in Angola lei? Come? Anche là ci sono limiti di velocità basse, alti? No, perché non avevo la macchina mia, stavo io. Ecco, poi, ma ripeto, i limiti ci sono dappertutto. No, ma sto scherzando. Ecco. Poi, Peroni in Angola, Zimbabwe, che effettivamente è una dittatura, e di solito i dittatori tra di loro si coprono, così come Chavez. Ancora con sto Chavez, ma lei è europarlamentare. No, Chavez. Che finisse lì a... all'AIA, al Tribunale Penale Internazionale, per avere il giusto processo. Ma voi della Lega però vi siete opposti a questa guerra? Non... Sì, ma allora anche lì, ripeto, la politica internazionale è una somma di coerenze. C'è Assad che ne ammazza più di Gheddafi, nessuno dal punto di vista almeno militare si sta muovendo. Sì. Ci sono le prigioni cinesi piene di dissidenti, eccetera, anche lì fermi tutti. A Myanmar, dopo anni di arresti domiciliari, prigione, eccetera... Lì dunque è stato negativo avere liberato la Libia da Gheddafi? No, no, non è stato negativo, però intanto bisogna vedere chi ci va adesso. Ma secondo lei è peggio chi ci va adesso? Se era un dittatore, per mettere un altro, non so se vale la pena. Ci auguriamo che questi qui siano veramente democratici, però non è la prima volta che vediamo che una dittatura se ne sostituisce un'altra. Io ricordo quando è andato via lo Shah di Persia, sì, è arrivato Khomeini, che poi sono arrivati gli Ayatollah, eccetera, eccetera. Sì. Sinceramente, forse per loro era meglio che c'era lo Shah, ecco, questo per dire. Sì, certo. Allora, Nicola da Reggio Emilia, 800 24 00 24, dica Nicola. Sì, buonasera Cruciani, guardi, io mi trovo in un supermercato, sto cercando di fare un po' di spesa se ci riesco, un operaio metalmeccanico, mi procito di perdere il lavoro perché la mia ditta forse chiuderà a settembre, di cui non ho preso lo stipendio questo mese. Mi dispiace. Quindi, ecco, quindi quando sento tutte queste cose qua... Cioè, queste cose cosa? Beh, questo per esempio il linguaggio che usano i ministri, per dire, ne parlavamo prima, no? Cioè, allora, le parolacce di Bossi, dice lei. Esatto, esatto. Allora, io ho detto, per una volta, chiamo la radio, magari vediamo se mi dà... Ma per una volta posso dire io che sono un operaio metalmeccanico e ripeto con tutte queste cose. Sì. Ma noi, ma forse loro, non immagino che noi altri ci siamo rotti i coglioni di questi stronzi qua. Vabbè, adesso lei accusa Bossi di dire le parolacce e ne dice altrettante pure lei? No, ma è per dire, per far capire il concetto, insomma, no, per far capire il concetto, ma insomma, ma è mica mai possibile che stiamo lì a parlare di queste cose qua, mentre il paese va proprio in rotta di collisione, no? Senta, Speroni, scusi un attimo, ma anche lei dà dello stronzo a Casini, cioè mi spieghi un po', secondo lei Casini è uno stronzo oppure no? Ma a volte si usano certe espressioni. Ho capito, lei a Casini darebbe dello stronzo? Il dittatore ha detto, ma di qua di là, e poi ha usato la stessa espressione di Bossi. Ecco, lei... Il linguaggio è diventato un pochino più volgare, un pochino più popolare, anche lì dipende come... Beh, ho capito, ma dare dello stronzo... Voi avete parlato prima di Scoreggia, ma io ricordo la prima, almeno, frase di Bossi, quando ha detto, rivolto al Presidente della Repubblica, quindi alla massima carica dello Stato, che con una scorreggia gli schiarive i capelli. Ho capito. No, però è un po' impossibile, non so dal punto di vista chimico, ma dal punto di vista pratico, Scalfaro aveva già capelli bianchi, non c'era bisogno di schiarirglieli. Ecco. Cioè, le dice Bossi, l'ha sempre detta. Risale a 20 anni fa questa espressione, quindi... Ah, era Scalfaro la cosa? Era Scalfaro, quindi non è una novità che Bossi usi certe espressioni, ma non è solo Bossi, insomma. Ecco, ma lei a Casini, per esempio, darebbe dello stronzo anche lei? Per quello che dice, per le posizioni che ha nei confronti della Lega, sulla questione delle pensioni, che ne so? A questo punto potrei darlo a tutti quelli che criticano la Lega, se volessi. Io di solito non uso certe espressioni, qualche volta mi capita. Ecco, ma in privato lei dice, a chi lo darebbe lo stronzo nella politica italiana? Ma guarda quello stronzo lì, in privato. Ce n'è una marea di stronzi. Ah, vabbè, pure Calderoli, scusi Speroni, Calderoli che dà della... che è detto a Montezemolo, io mi ricordo, perché sono talmente tante poi le parolacce. Scoreggia dell'umanità, ma insomma non si può esagerare. Diciamo, come ha detto l'ascoltatore, lo fa per farsi capire in maniera immediata. Ma scoreggia dell'umanità! Ma per farsi capire, ma che dico? Vabbè, per umanità è un essere umano, quindi vabbè. Poi ha detto anche che non ha mai lavorato, forse anche questo è un'esagerazione. Vabbè, ricordo anche quello, che a 26 anni Montezemolo è già responsabile del settore corse della Ferrari, quindi qualcosa avrà anche fatto. Appunto, ecco, magari c'è qualcun altro che ha lavorato meno di Montezemolo. Ecco, dica una cosa, allora, basta Calderoli con queste robe qui, basta Bossi con queste parolagge, scoregge, legnate i giornalisti. Ma le usano tutte. Beh, oggi le usano tutti, no? Un'espressione in cui si dice che bisogna dare delle legnate ai comuni per legnare Maroni. Ma non è la stessa cosa, scusi, Speroni. Se parla di legnate, sempre legnate sono. Ah, ho capito. Diciamo che è un linguaggio tipico della Lega, ecco, Spadolini non l'aveva mai usato. E allora c'è qualcuno non della Lega che ha detto che bisogna dare delle legnate a Maroni. Insomma, Lega non può usare le legnate, le possono usare gli altri. Ovviamente si intende in senso metaforico, tant'è vero che Maroni oggi c'era la nostra segreteria politica, ha detto guarda, è inutile legnare i comuni per legnare me, sono qui, legnatemi direttamente, no? Che lui è uomo di spirito, insomma, quindi però se gli altri usano certe espressioni, ma non è finito Bossi, secondo me. Allora, guardiamo Sarkozy, no? Anche Sarkozy ha detto... Che ha detto? Se andate su YouTube lo vedete, quando c'era uno che disturbatore. Sarkozy come Bossi, francamente mi sembra esagerato. Cioè, non è che ogni giorno stiamo lì con Bossi che fa una pernacchia. Praticamente Pirla non rompere i coglioni, ecco. Ah, ho capito, può succedere una volta. Un orecchio dal francese, no? E questo qui è il presidente della Repubblica, quindi. Ma ormai si esprime un po' a gesti. Usano tutte Bossi queste espressioni. Ma non le ha usano tutte. Ormai Bossi si esprime a gesti, è il dito medio, è il scorreggio, cioè è un linguaggio allora che. Questo. Ecco, Parenzo, quando usava questa espressione con Scalfaro, l'ha usata circa 20 anni fa, ho capito, quindi ma non è assolutamente una novità. Ma questo è un continuo, però, ormai si è trasformato Bossi da questo punto di vista, c'è stata una trasformazione, per carità, sarà stata anche la malattia, la difficoltà di parlare. Bossi è sempre stato così, non è che è cambiato, usa l'espressione che usava, ripeto, penso da ragazzino. Vabbè, abbiamo la borsa. Bossi è come un bambino, sostanzialmente. No, come usa le stesse espressioni che usava da ragazzino, che usa ancora adesso. Vabbè, è gravissimo questo, però. Scusi, se uno dovesse comportare come si comporta da ragazzino. Bossi, no, Speroni, dicendo, Bossi usa le stesse espressioni che usa da ragazzino. Cambiato, usa le stesse parole che usava 40 anni fa, diciamo. Bossi, allora. Ma è gravissimo questo, scusi, Speroni. Cioè, è come se io... 40 anni fa ne aveva più di 30, ecco, non ero bambino. Ho capito, cioè lei dice, usa le stesse espressioni di quando uno è ragazzino. Ma a un certo punto uno crescendo si limita. 40 anni fa. Adesso lei dice 40 anni. Ma politica. Vabbè, comunque abbiamo la borsa, torniamo subito. Siamo qui, caro Parenzo, 18:35, questo orario un po' anomalo per la Zanzara, fino a venerdì ancora, fino alle 20:30, poi da lunedì dove saremo in diretta da Dro. Caro Parenzo, come quindi sai? Si torna in Trentino anche lunedì prossimo. Bene? Si torna in Trentino lunedì prossimo, siamo in diretta da Dro, riprenderemo col nostro consueto orario delle 18:30, delle 18:30, 800 24 0024. Ernesto da Roma, buonasera. E buonasera Cruciani, mi sente? La sento, riconosco anche una voce più volte intervenuta. Guardi, Cruciani, allora sì. Le dico subito, mi dica subito. Una bella giornata perché siete tornati voi due. Come siamo contenti di questa telefonata. Dottore. Come siamo contenti. Adesso siete tornati voi due. Lo so, ma che vuole fare? La pretesa che avete di fare una trasmissione a metà strada tra la Goliardia e il cabaret, fate una trasmissione di Melma. Si arrenda, caro Ernesto, si arrenda, alzi le mani. Come dice Marco Rossi, e sono ancora qua. Poi, oltretutto, siete anche maleducati, perché date sulla voce molto spesso a chi vi ha la pazienza di chiamarvi e offendete anche quando non sono delle vostre idee. Ma infatti lei sta parlando liberamente senza che nessuno la interrompa, chissà perché. Ma io l'ho fatto perché so che vi lasciate parlare, appunto, se io non mollo. L'ultima cosa, poi la saluto. È roba da matti. Su Parenzo, che si definisce un giornalista impropriamente, questa è un'appropriazione indebita, perché lui non fa informazioni, ma fa propaganda per la sinistra, quindi è un'appropriazione indebita perché è un produttore di propaganda, non di informazione. Benissimo, lo vogliamo denunciare? Non è vero, Cruciani, vi voglio bene, era una provocazione. Lo vogliamo denunciare? Lo vogliamo denunciare questo Parenzo, signor Ernesto? No, ma facciamolo campare, in fondo è simpatico. Poi non era vero quello che ho detto, è solo una provocazione, vi ascolto tutti i giorni e bentornati. Grazie. Arrivederci. Abbiamo ancora però una settimana. Attento all'alcol, Ernesto, occhio all'alcol. Abbiamo ancora una settimana di rodaggio fino a venerdì, in questo orario dalle 18 alle 20:30, che è un po' inusuale, mi ricorda l'estate scorsa. Io manco lo sapevo stamattina, ho chiamato a un certo punto, a che ora torniamo oggi? Alle 18, alle 18. Giuseppe dalla provincia di Ascoli. Buonasera a voi. Gli orari, Parenzo, diciamo la verità, gli orari si dovrebbero adattare a noi, non noi adattarsi agli orari. Sto dicendo forse una cosa eccessiva, no? Francamente ci dovrebbero essere gli orari che si adattano a noi, non noi che ci dobbiamo adattare agli orari. Mi sembra una cosa folle. Ma esiste un palinsesto, credo, no? Però anche i palinsesti si dovrebbero adattare alle esigenze. Per esempio tu puoi dire, io posso stare in diretta solamente dalle 19, poi facciamo iniziare la trasmissione alle 19, qual è il punto? Ah, si può fare, certo. Come dire, i palinsesti alla carte. Giuseppe, dalla provincia di Ascoli Piceno, buonasera. Sì, buonasera a voi. A Bossi farò un cenno fra poco, se me lo permettete, in merito a tutto quanto è stato detto in settimana per la cosiddetta manovra in corso. Io userei un'altra parola, se... Sì. per me l'ennesimo tentativo di spoliazione delle classi modeste. Ma ecco, a me lo dice di... Giuseppe, io sono avvelenato, avvelenato, io sono di quelli che dico santo, santo il signor Belpietro, direttore di Libero, che ha dato voce, al contrario di altri giornali del centrodestra piuttosto proni nei confronti di Berlusconi, ha dato voce a quella parte di italiani che non è rappresentata da nessuna parte, cioè quelli che vengono spogliati, rapinati, certo, e che non hanno rappresentazione. È tra questi anch'io, per carità, cioè, c'è anche un piccolo interesse personale, non lo nascondo, sono tra quelli che ha un reddito superiore ai 90.000 euro e che per adesso, per il momento, perché non è detta l'ultima parola, dovranno versare un obolo in più, cosiddetto di solidarietà. A me, se mi dicessero, scusi un attimo, signor Giuseppe, siccome mi dicono che sono ricco, io le dico subito che non, primo, non sono ricco, secondo, se mi dicessero è una rapina, sarebbe meglio, invece lo chiamano contributo di solidarietà. Bravo. Cioè, mi dicessero ti sto rapinando, dice vabbè, ti sto rapinando, mi arrendo, alzo le mani, ti sto rapinando, va benissimo, sarebbe più, come dire, sarebbe più onesto, mi dico guarda, ti vogliamo rapinare 3.000 euro l'anno, 4.000 euro l'anno, benissimo, mi arrendo, alzo le mani, lo Stato mi rapina, no, certo, me lo chiamano contributo di solidarietà, io divento pazzo perché si chiama contributo di solidarietà. Giuseppe, che mi voleva dire? Non mi faccio parlare di questa cosa, che sono avvelenato, cioè sono costretto a dire che il signor Montezemolo ha ragione al 200% in tutte le cose che sta dicendo da 15-20 giorni a questa parte, sul contributo di solidarietà, sulla patrimoniale, sullo Stato. Le conosce il signor Montezemolo? Potrei scrivere un libro su di lui, ho fatto addirittura domande alla RAI per demolirlo anni fa, no, mi creda, lo posso fare ancora, ascolti signor Cruciani, che è un'occasione che ho già consumato, 3 telefoni e le sue relatrici, se no non c'è, non più un quarto di scorta, ascolti, mi dica, io allora ascolti, l'indignazione che lei si è sfogato, fra l'altro, per come stiano scomparendo dai commenti interessati a questo punto le ipotesi di tassazione sui redditi eccedenti 90-100 milioni che interessano di lei, di no, 100.000 euro, 90-100 milioni insomma mi sembra scusi, Casini il belloccio con che c'entra che è belloccio posta, Casini, e lo stesso che ho detto, che qualcuno ha definito Cossiga, definito belloccio anche lui, ho capito, vabbè, lo dico. Ignoranza della realtà e faccia tosta, dice che trattasi del ceto medio, no? Vabbè, il tutto per insistere invece ancora una volta sulla stretta ulteriore delle pensioni, sulla vendita dei beni dello Stato, il cui tentativo, lei si ricorda, con la cartolarizzazione è stato un fallimento. Vabbè, ma dove vuole arrivare lei, Giuseppe? Non arrivo, ho capito. Arrivo subito, è tre ore. Ascolti, arrivo ai 90 milioni. Ora è evidente che chi vanno a volere questo contributo non è lei, sono i politici. Circa 1.000 fra senatori e deputati, infatti, superano quel limite. Ma più. Questo non c'entra niente, Giuseppe, non c'entra nulla questo dei politici. Dire, ma lei non deve fare gossip, deve far parlare la gente quando dice dei dati. Lei sta parlando. Più scandalosamente, centinaia di consiglieri regionali in tutta Italia guadagnano più di quella cifra. Basti pensare, me lo faccia dire questo, la famiglia Bossi, che rappresenta un caso unico di familismo in Italia, mi spiace che Speroni sia lì, ma è meglio che lo ascolti anche lui. Accanto al padre, ministro, senatore, ex parlamentare europeo, con redditi per centinaia di Adesso pare che anche il figlio di Pietro sarà candidato in Molise per l'Italia dei Valori. Non devi. Sì, pare di sì. O se il figlio maggiore di Bossi, tanti non sanno che fa l'assistente portabossa a Strasburgo, forse con Speroni, non lo so, mi corregga. Ora anche il secondo figlio, come sa, da mesi, meglio conosciuto come Trota, con i suoi Vabbè, ma adesso lei ci sta dicendo delle cose che sappiamo, che la famiglia non Bossi... Non perché la gente non le sa, non ne parla più. Un bellissimo stipendio come badante del padre, finisco, e anche lui supera i 120-140 mila euro all'anno, concludo. E lei agli ascoltatori che pensava di un problema, credo che questa gente sopporti che gli si metta le mani in tasca per ma non sono ricco, non sono ricchi quelli che guadagnano oltre 90.000 euro, lo vuole capire o no Giuseppe, lo vuole capire pagare, o no? Ma che possono pagare? Ma certo che possono pagare, ma cosa c'entra? Allora perché fanno sto casino? I politici in primo luogo, ma non capisce lei che i politici sono i primi che hanno questi redditi oltre a tanti altri. Va bene, ho capito Giuseppe, Speroni, scusi un attimo. Definiamo chi è ricco. No, lei si sente ricco, Speroni. Quanto guadagna? Il suo reddito quant'è? Si può sapere? Dunque, intorno ai 7.000 euro al mese. Netti. Per 12. Per 12. 7.000, insomma, lordo, quant'è? Lei, la dichiarazione dei redditi, quanto c'ha scritto? Quanto guadagna? 200.000 all'anno? Quanto guadagna? Il reddito è un po' particolare perché tutti noi dipendenti dalle istituzioni europee abbiamo una tassa fissa intorno al 20%, quindi e poi io ma la sede... quant'è la sua dichiarazione? Scusi, non ho capito, lei paga 20, cioè i parlamentari europei pagano 20% di tasse? Ecco, se io dicessi dichiarazione dei redditi imbroglierei, nel senso che io prendo anche un po' di rimborsi spese, questi rimborsi spese qualcosa mi rimane in tasca, però non figurano nella dichiarazione dei redditi. Ma il tuo reddito alla fine dell'anno quant'è? 130.000, 140.000? No, è meno di 100.000, comunque più di 90.000, ecco. Ma perché, scusi, com'è possibile? Lei dice 7.000 netti, com'è possibile che facciano... Perché ovviamente le tasse si pagano all'ordo, sull'ordo, non si pagano sul netto. Però quando io ragiono, a me interessa quello che viene in tasca, non quello che... No, ho capito. Fisco. Innanzitutto lei dice, io sono un privilegiato perché come parlamentare europeo la tassazione su di me è del 20%, sbaglio? Sì, però ci siamo ridotti lo stipendio del 30%. Prima pagavo il 40%, però pigliavo molto di più. Ecco, allora lì mi ricordo, pigliavo 12.000 euro netti al mese, lordi al mese. Adesso prende 12.000 lordi. Adesso prende 12.000 lordi? No, prima ne prendevo 12.000 fino a 2 anni fa. Beh, no, di più, 12.000 netti prendeva. No, prendevo 12.000 lordi. Bah, come parlamentare europeo mi sembra poco, francamente. No, era quello, come i parlamentari nazionali, lordi è quello. No, era superiore. Ma sei sempre stato più alto quello europeo da quello nazionale. No, quello europeo era parificato a quello nazionale prima. Era legato a quello nazionale. Dei singoli paesi. Avevano i colleghi nazionali, tanto pigliavo io. Poi abbiamo fatto invece lo stipendio europeo uguale per tutti. No, da questa legislatura, credo. Questa legislatura, e quindi il mio reddito lordo è 8.000 euro. 8.000 netti? No, lordi. Sì. Vabbè, poi ci sono i rimborsi, però, abbia pazienza, spero. Sono i rimborsi, diciamo, mi danno... Quanto le rimane in tasca? Quanto si inguatta lei con i rimborsi? L'ho detto, io arrivo alla fine sui 7-8.000 euro al mese. Vabbè, non è poco, netti, netti. Chi dice che è poco? Non ho mica detto che... No, ma i rimborsi, lei, com'è che riesce a... Com'è che le rimangono in tasca dei quattrini? Allora, mi danno 300 euro per mangiare e dormire a Bruxelles. Allora, se io vado in certi alberghi, non mi bastano neanche. Benissimo. Io vado in un albergo dove spendo 76 euro, una cinquantina per mangiare, diciamo in un giorno posso mettere via 100 euro. Se vado 10 giorni sono 1.000 euro che metto via. Però riesce a guadagnare 1.000 euro così da... Perché non va con la tenda? No. Potrei magari risparmia di più. O col camper, va col camper, bellissimo. Qualcuno che mi ospita, io... Ma avete chiesto i miei conti, penso di avere il dovere di dirvelo. Certo, certo. Questo è, ripeto, no, ma io le suggerisco di andare col camper, ancora meglio, ma lì col camper. Ma lo so, ma penso anche voi giornalisti, quando andate in missione, vi pagano le spese. Sì, sì, certo. No, ma certo, io lo davo un suggerimento a lei, a tutti. Prova del genere. No, no, Parenzo no, dice... Ma lei non ha mai pensato di andare col camper? Parenzo dice, per risparmiare, uno potrebbe andare col camper, almeno così in tasca... Col camper, si compra il tonno in autostrada, dei grissini, meraviglioso. Non ho bisogno di andare col camper. Se poi a un certo punto, anziché andare a un albergo di lusso, vado a un albergo normale, mi potrebbe avanzare qualcosa. Ecco, per quello che dico, nei confronti di chi mi ha eletto, che vuol sapere quanto guadagno, ho fatto questa stima. Però faccio un esempio, questo mese di agosto, dove non sono mai andato a Bruxelles, il mio reddito è quei 6.000. Ecco. Comunque alcuni dicono non è vero il reddito di cui Speroni parla, però qui bisognerebbe avere, adesso non ricordo esattamente la busta paga dei parlamentari europei, comunque la busta paga dei parlamentari europei mi sembra più cospicua. Speroni, lei dice alla fine mi rimangono 7.000-8.000 netti, mi rimangono, non so quello che dice lei, 7.000-8.000 netti. Ecco, allora anche lì il discorso degli assistenti, a parte che il figlio di Bossi è stato mio assistente per pochi mesi qualche anno fa, 4-5. Ma chi è? Quello là come si chiama? Libertà là come si chiama? No, quello è Riccardo Bossi. No, è Enrico. No, scusi, Enrico. Cioè, quello... Eridanio. Chi è che è stato suo assistente? È Riccardo Bossi, che è il primogenito che ha avuto dalla prima moglie, ha fatto qualche mese poi. Ecco, ma a proposito di questa cosa qua, ma è così vero che la moglie di Bossi ha questo potere? Pare che abbia detto a Bossi l'altro giorno davanti a tutti, sbatti fuori tutti i traditori, non vedi che ti stanno cacciando, devi sbatterli fuori tutti, a cominciare da Maroni e poi Fontana e Tosi, anche Giorgetti, ti stanno tradendo. Allora, io penso che nessuno stia tradendo nessun altro. Però... Poi ovviamente Manuela Marone, che è la moglie di Umberto, ha tutti i diritti di parlargli sia come moglie e anche come politica, non dimentichiamo... Come politica? Mica fa la politica, mica ha incarichi? Allora, lei è stata una delle fondatrici della Lega, quindi già per quello... Cioè lei sta dicendo che conta molto, e pesa molto il parere della signora Bossi? Pesa molto, ma è libera di esprimere il suo parere. Però diciamo la verità, pesa molto. C'è il traffico, poi torniamo sulla signora Bossi perché mi interessa agli ascoltatori. 800 24 00 24. Il potere della signora Marrone, che tra l'altro è una baby pensionata, in pensione a 39 anni. Eccoci, 18.49, 800 24 00 24. Mi segnalano che dalla riunione della Lega che è in corso... Come in corso? È finita? È finita, sì, è finita. Finita alle 2. È finita, sì, è finita. C'ero anch'io, quindi lo so. Ma non c'era la proposta della patrimoniale sul lusso? Che è, no, allora, sono state fatte delle proposte, su questo ne parla Calderoli. Allora? Sentite lui per sapere. Ma noi ci siamo Speroni, però. È passata o no? Abbiamo stabilito una certa riservatezza proprio perché sono questioni che interessano un po' tutti, i cittadini, la politica, eccetera. Quindi per evitare che uno dice una cosa e poi viene smentito, roba del genere, c'è Calderoli, ha fatto i comunicati, quindi mi attengo a quello che ha detto lui. Ecco, un minimo di riservatezza. No, però Calderoli ha parlato solamente delle pensioni, Abbiamo parlato di un sacco di roba, poi la linea, ripeto, è uscita una linea che servirà per il confronto ovviamente con le altre forze di governo e il delegato, a parte Umberto Bossi, e il ministro Calderoli, quindi è lui che... Le pensioni comunque non si toccano. Ecco. Le pensioni non si toccano. La linea che è uscita è quella che non si tocca le pensioni, anche perché di riforme ne sono già fatte abbastanza, poi... che tutto il mondo ci chiede di cambiare le pensioni, mi sembra che quest'anno si celebri il 150esimo dell'unità e della sovranità italiana, non vorrei che adesso coincidesse col fatto che la sovranità passa a qualcun altro, che siano i mercati, l'Unione Europea o altri soggetti. Ma rendete, che ci dicono come e quando dobbiamo andare in pensione, ecco. Beh, però, scusi, questa roba delle pensioni siete come lo SPI CGIL proprio. Avete la stessa posizione della CGIL? Stessa posizione della CGIL, va bene, per carità, però la Lega è come la CGIL, lo dica. Avete la stessa posizione della CGIL del Partito Democratico, cioè non si tocca. Poi uno quando dice non si toccano le pensioni, è pure sbagliata la terminologia, perché nessuno vuole ridurle, tagliarle a livello di emolumenti, a livello di danaro. Si tratta semplicemente di adeguare l'età pensionabile agli altri paesi. Mi sembra una cosa sacrosanta, caro Speroni. Perché non lo volete fare? Perché avete l'elettorato che si spaventa? Perché? Allora, intanto diciamo che le pensioni in certa misura sono già state tagliate, quelle sopra un certo importo, perché non essendo rivalutate vengono tagliate dall'inflazione. Non dovete tagliare, dovete alzare l'età. Alzare l'età pensionabile. Non dovete tagliare niente, alzare, via, 65 anni tutti, arrivederci. Ma allora, teniamo presente che uno quando comincia a lavorare... Ma lei è pensionato? Io ho 65 anni, quindi penso di no, avere... No, quando... che lavoro faceva lei? Ha fatto qualche lavoro? Tecnico di volo. Tecnico di volo? Sì. All'Italia, certo. All'Italia, ma è andato già in pensione lei? Sono andato in pensione perché è considerato un lavoro usurante. Anche oggi mi pare che sia un lavoro usurante. Tecnico di volo dell'Italia è lavoro usurante? Beh, lei si alzi al mattino alle 3 per fare un postale oppure faccia 14-15 ore di volo di fila e poi mi dica se non è usurante. Bah. Comunque, vabbè, no, per carità, bisognerebbe rimodulare anche la definizione di lavoro usurante. In altri paesi tutto il personale navigante, aeronavigante, va in pensione in anticipo rispetto agli altri. Scusi, quando è andato in pensione lei? Io sono andato in pensione nel 97. Cioè è una sorta di baby pensionato anche lei? Sì, nel senso che avevo 30 anni di contributi. Ecco. 30 anni di contributi. E allora adesso non è più così. Anche cioè, a che età è andato in pensione? Mi scusi se mi faccio gli affari suoi, però qui siamo in una sorta di casa di vetro, no? Sì, vabbè, tanto il pubblico. Sono andato in pensione con la quota che allora era 80, 50 anni di età e 30 di contributi. A 50 anni l'è andato in pensione? Sì, però avevo 30 di contributi. Cosa pazzesca. Perché non tutti ce li hanno. Ho capito, ma non è che si può andare a 50 anni in pensione, ha capisci? Ha capito perché l'Italia è fallita, è stata cambiata, però, ripeto, la legge non l'ho fatta io, perché... anche se ero già parlamentare, ero in aspettativa, però quella legge lì risale, dunque, una legge dell'80. Ho capito, però si poteva andare in pensione a 50, oggi non si potrà più, per carità, però lei è andata in pensione a 50 anni, Speroni, non si vergogna un po'? Si poteva, no, non mi vergogno assolutamente, cioè è la stessa storia dei limiti di velocità, se a un certo punto c'è una legge che consente certe cose... No, beh, quello certo, una legge che ti consente di rubare il futuro alle nuove generazioni, chi ma se ne frega. Il fondo di previdenza del personale navigante è un fondo autonomo. No, d'accordo, però lei ha detto in pensione. Però infatti era fallita l'Italia. L'Italia era fallita. Anche per questo era fallita, amico mio. L'Italia non è fallita per quello. Anche. L'Italia è fallita perché era gestita male, come troppi privilegi, come è fallita la Pan American, come è fallita. Comunque lei si sente un privilegiato da questo punto di vista o no? Eccetera eccetera. Lei si sente da questo punto di vista, scusa? Non c'entra niente con le pensioni, perché il fondo pensioni è alimentato ovviamente dai contributi, ma questo vale per tutte le compagnie aeree, quindi non è che perché uno paga i contributi a un certo punto la compagnia. No, ma ho capito adesso, senza scendere nel dettaglio. Scusi un attimo, signor Speroni, lei non si sente un privilegiato per essere andato in pensione a 50 anni? In un certo senso sì, però ripeto, uno prima deve fare un certo lavoro e poi vedere se effettivamente usurare. Le pensioni di anzianità, perché non la volete toccare le pensioni di anzianità? Le pensioni di anzianità oggi già c'è quello che si chiama lo scalone di Maroni. E insomma non basta, evidentemente non basta. Chi dice che non basta? Chi dice? Per 30 anni, allora vado a vedere i conti dell'INPS. Ma non è questione di conti, ce lo non è che ce lo chiedono perché vogliono, perché sono cattivi, ci chiedono nel senso che vogliono, questi che fanno i conti sulla pelle degli altri, questi vogliono che l'INPS non solo sia inattivo, perché l'INPS ha i soldi per pagare le pensioni almeno per 30 anni. Sì, ma non è il punto, non è quello. È che ci vogliono prendere i soldi dei pensionati per destinarli ad altre cose. Ma nessuno vuole prendere ma i soldi. Chi dovrebbe andare in pensione? Cioè, se qualcuno ha già fatto il suo programma, dice io ho 40 anni di lavoro, l'anno 21 vado in pensione, gli dicono qualcuno... Dice no, ci vai fra 3 anni. Ho capito, ma qualcuno prima o poi, cioè, questa cosa prima o poi andrà fatta. Senta Speroni, ma oggi in questa riunione, sono previste le cosiddette quote, dove si somma l'età e l'anzianità pensionata. Scusi Speroni, io voglio capire una cosa. Oggi in questa riunione che c'è stata via Bellerio, Bossi ha fatto altre cose, altri gestacci tra di voi, no? Era lucido. No, non ha fatto nessun gestaccio, però ripeto, la linea della Lega è quella, le pensioni. Che succede? Chi è che ha acceso la cosa? Chi è che ha acceso qualcuno? Ma questo qui è il mio cellulare. Ah, il suo cellulare. Le chiedo un'ultima cosa. Anzi no, Parenzo, tu hai letto quella cosa incredibile dell'Ungheria? Ah, quella cosa pazzesca, voglio il governo, un governo. No, in Ungheria c'è un partito che si chiama Libertà e Solidarietà. Che credo che sia il governo, però. Sì, al governo, sì, che ha fatto una proposta che è quella. Vogliono sterilizzare i rom, le donne rom. Sterilizzare i rom, però con incentivi per i poveri, da incentivi, eccetera, perché pare Speroni che faccia. Speroni che pensa, anche Speroni in Italia che... sarebbe. Che pensa di questa cosa? Una follia oppure una cosa che si può fare? Che è una follia, nel senso che mi sembra contraria un po' a tutte le regole dei diritti umani. Ovviamente ognuno è libero di proporre tutte le follie. Poi bisogna vedere innanzitutto se hanno maggioranza parlamentare per farle approvare, però visto che esistono appunto delle norme internazionali e soprattutto vincolanti come quelle dell'Unione Europea, non posso, di cui l'Ungheria fa parte, non penso che questa proposta potrà mai avere una funzione pratica, a meno che l'Ungheria se ne esca dall'Unione Europea, ma ritengo che finché sta nell'Unione Europea non è possibile. Bene. Cosa, anche se volontaria, teniamo presente che non è forzata, è su base volontaria, questo mi sembra evidente, insomma. Sì, ma su base nemmeno su base volontaria lei lo accetta? Come? Nemmeno su base volontaria lo accetta come cosa, come principio, come possibilità? Esistono delle fattispecie di reato, per cui io non posso andare a dire guarda, mi paghi e mi taglio via un dito perché è su base volontaria. Comunque nemmeno su base volontaria si può fare. Dobbiamo chiudere, che c'è il giornale radio. Ritorniamo tra un quarto d'ora. C'è il giornale radio, devo dare la linea al giornale radio. 800 24 00 24. Tutti gli ascoltatori in linea. Tra pochi minuti torna la Zanzara. E Eccoci qui, caro Parenzo, 1916-800-24-0024, questa è la Zanzara. Giustamente qualche ascoltatore ci segnala che la proposta di sterilizzare i Rom viene dalla Slovacchia e non dall'Ungheria. Ci correggiamo, non cambia la sostanza naturalmente. E andiamo a sentire, come al solito, con l'introduzione di una nostra cara amica, protagonista di quest'estate di un incontro finito sui giornali patinati, la signora Began, che ha incontrato, ne parleremo durante la settimana, ne parleremo. Forse è il caso anche di rinvitarla, no? Ancora la signora. Beh, a spiegarci questo incontro, questo tête à tête con il signor Bocchino, nemico del cavaliere. Lei, che è l'ape regina, che è tatuato su un piede, c'è scritto proprio 29 settembre, il giorno del compleanno dello stesso Berlusconi, Sabina Began. E adesso i titoli del TG3 di Bianca Belinguer. Tripoli occupata dai ribelli, gli insorti nel centro della città presa, la televisione di Stato, ma i cecchini di Gheddafi sparano anche sui bambini. Assedio al bunker della Raiz, mistero sulla sorte del colonnello, gli insorti promettono un processo equo, ma si teme un bagno di sangue. E l'eclisse di Gheddafi dà una boccata d'ossigeno alle borse, dopo un mese da incubo il prezzo del greggio va in discesa. Al via l'esame parlamentare della manovra, la Lega non molla nessun intervento sulle pensioni, anche Sacconi frena, il sistema è sostenibile. Centinaia di sindaci in piazza a Torino contro la manovra che prevede tagli ai comuni, col TG3 a Bologna, il riflesso della crisi in un centro per anziani. Non ho ucciso Melania, dice Salvatore Parolisi, lacrime davanti al giudice del Tribunale del Riesame, domani la decisione sulla scarcerazione. Stop nei medici a Vasco Rossi, 2 mesi di riposo e niente tour, saltano tutti i concerti in programma, confidenze e segreti su Facebook. Solo cuore, un'unica idea. Si è fatto vivo Scilipoti? Mamma mia. Perché? Che succede adesso? Che c'hai contro Scilipoti come al solito? Si è fatto vivo, si è fatto vivo. No, io ero solo 2 settimane senza sapere nulla di questo Scilipoti. Lo so, è stato intervistato da Radio Yes, una radio romana, ecco. Una radio romana, e ha parlato così, diciamo, in libertà, come è giusto che sia. Come il tuo solito. Sai che a un certo punto, tra le tante cose che ha detto Bossi quest'estate, ha detto meglio Scilipoti della Levi Montalcini, cioè meglio avere l'appoggio di Scilipoti che è quello che ebbe il governo Prodi dalla Levi Montalcini quando c'erano i senatori a vita. Lo stato di difficoltà della Lega si capisce anche da questo. Meglio Scilipoti della Levi Montalcini. Hai capito? Questo bastava dire questo. Però ha un senso questo ragionamento, se ci pensi. Adesso non voglio, so che ti faccio arrabbiare con questa cosa, no, però. Ma non puoi giustificare tutto. No, però questa cosa qua te la posso giustificare in questo modo: cioè, meglio l'appoggio di un parlamentare eletto piuttosto che di un senatore a vita. Questa cosa di Bossi, per carità, poi era insultante nei confronti. Non insultante. La vogliamo risentire questa cosa di Bossi? Innanzitutto. Brunetta, nano di Venezia, non romperci i coglioni. Questa era su Brunetta, ma insomma è la stessa cosa, non ce l'abbiamo in audio, quella sulla Levi Montalcini, cioè Scilipoti meglio della Levi Montalcini. Però così la spiega Scilipoti, sentiamo. Per quanto riguarda la Montalcini, io credo che Bossi non si riferisse alle qualità della Montalcini e quello che è stato per l'Italia e la grande scienziata, ma si riferisse sotto il profilo politico. Certo, sotto il profilo politico, certamente una persona che ha 101 anno, dico io non so che contributo possa dare alla politica. Il riferimento non era né offensivo né voleva essere denigratorio nei confronti della Montalcini, ma era un riferimento politico, ben nel dire che Scilipoti sicuramente nel dibattito politico in questo periodo, ha un peso, nel positivo e nel negativo, ha contribuito a creare qualcosa. Giorni più duri, pronti a difenderci da mondi. Vabbè, così parlò Scilipoti sulla Montalcini. La cosa grave è che se lo dice da solo, capito? Scilipoti ha contribuito a creare qualcosa, se lo dice da solo. Sì, contribuito. No, ma è una Scilipoti psicopatologia ha contribuito più della. Sì. Della Montalcini. A un certo punto. No, ma ci vorrebbe un po' di litio, direbbero gli psichiatri, probabilmente. Cioè, davvero dovrebbe curarsi, è grave. Cioè, un conto è magari avere dei momenti così in cui uno dice sono Scilipoti, no? Fa 2-3 dichiarazioni, poi dopo però finisce tutto. Ma insistere è una patologia, lo sai, no? Allora, Saia, si è rifatto vivo, Saia! No. Sì, sì, sì, Saia. No, questo però è serio, perché quel personaggio è un personaggio pericoloso, eh? Non si può più scherzare con Saia. Signor Saia, sì. Che è il leader... Tu ridi, ma è un personaggio veramente pericoloso. ...del Partito Nazionalista Italiano, con cui ha avuto qualche discussione prima dell'estate. È un nazista. Non signor Saia, messinese, il quale vuole... Ha aperto le iscrizioni ai nuovi militanti del suo partito, una campagna di reclutamento, diciamo, nel segno della moderazione. Ho visto su Repubblica e lui dice nazionalisti, ragazzi, via stranieri e gay. Negri, omosessuali e comunisti. Ripulire io l'Italia. Dico solo una cosa. Aspetta, senti questo audio. Sì, sentiamo. Vogliamo ripulire l'Italia. Tutti loro italiani, non cittadini, così classificati dal nostro diritto costituzionale, dovranno lasciare il territorio nazionale. I loro beni saranno sequestrati e presi in custodia dallo Stato, quindi affidati ai cittadini italiani. Ma che vuol dire? Ma no, adesso è da ridere per non piangere. Dopodiché... Aspetta, aspetta. Legioni per difendere la patria. Il signor Saia. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Noi siamo pronti a difendere la nostra patria, seguendo l'articolo 52. Siamo pronti a difenderla anche in armi. Siamo pronti a morire per essa. L'uniforme che indosso è l'uniforme delle legioni per la sicurezza e difesa della patria. Associazione di carattere militare che persegue anche indirettamente scopi politici. La legge italiana lo prevede. Un grande coro e dentro ci sono. Che vuol dire? No, ma è ancora in libertà sto signore. Vabbè, tanto va. Dopo sarà in collegamento con noi il signor lui vuoi collegare. Il signor Saia. Ah, vuoi tornare proprio con la galleria dei mostri, ottimo. Salvatore, ottimo. Da Firenze, buonasera. Buonasera, buonasera. Dica, grazie, signor Salvatore. Dato l'opportunità. Ascolti, io ritorno sul fatto di prima, no, degli stronzi di qua e di là. Di Bossi, lei dice. Ecco. Aspetta un attimo, questo. Che sento una cosa. Aspetta, sento sì. Un rumore di sottofondo. Una pernacchia, ho sentito una pernacchia. No, da chi viene Parenzo, sta pernacchia? Parenzo? C'è qualcuno intorno a te che ha fatto una pernacchia? No, no, nessuna pernacchia. Nessuna pernacchia, pernacchia. No, ma ascoltavo prima. C'era una pernacchia. Ah, un'altra pernacchia. Vabbè, Salvatore. Non allora, sono qui. Il discorso è questo. Adesso sentivo l'onorevole della Lega, com'è che si chiama? Speroni. Francesco Enrico. Ecco, io veramente mi sento offeso da una dichiarazione del genere. Quale? Che è andato in pensione a 50 anni. Vabbè, ho capito, ma non è che ha violato la legge. Un momento. Mi sento offeso di quando va a Bruxelles e si intasca i soldi perché risparmia, se ho capito bene, così? Sì, è così. Okay. Ecco, benissimo. Mi sento offeso. Ho il diritto di offenderlo un attimino, ma non credo che si offenda, perché è veramente un grande stronzo. Vabbè, Salvatore, si calmi, che vuol dire? A nome di tutta l'Italia, per cortesia mi faccia parlare. No, lo dico io. A nome di tutta l'Italia. Ma come nome? È un grande stronzo, lui e tutti i politici del cazzo. No, però, scusi, ecco. Salvatore, a nome suo, non a nome di tutta l'Italia. No, al massimo tutti, è a nome suo. Qui, abbia pazienza. Cruciani, mi scusi, mi dia un attimino di tempo, perché qui ma quale tempo? Facciamo fatica a mettere il piatto a tavola. Io sono sposato da 22 anni, ho 5 figli da mantenere, va bene? Ho capito, faccio 5 figli non è che lei è stato costretto da qualcuno a fare 5 figli? No, non sono stato costretto, stavo bene. Benissimo, ha deciso di fare 5 figli adesso, sapendo... Adesso le leggi che stanno mettendo si stanno mangiando pure le mutande. Bravo, bravo. Non mi possono venire a dire che siamo evasori quando non si pagano e non siamo cautelati. No, non ma scusi, Salvatore, cosa c'entra Speroni con questa roba qua? No, scusa. Ma ha ragione, è bello quando monta l'indignazione. Cosa c'entra? Quello lì non è solo uno stronzo, è un gran pezzo di merda. No, se vuole nome e cognome per farmi la denuncia, glielo do pure in diretta, va bene? No, però scusi, perché sarebbe uno stronzo un pezzo di merda, come dice lei? Scusi, Salvatore. Certo. Perché? Certo, perché me lo spieghi? Ha contribuito a far fallire l'Italia. Primo. Sono i soldi nostri, dei 300 euro che va, quando va a Bruxelles, va bene? Che si intasca. Sono soldi del popolo. Sono soldi nostri. Salvatore, adesso lei mi sembra un po' esagitato, abbia pazienza. No, io non sono agitato. Beh. Io sono stato derubato, sono stato sequestrato come persona. Da chi è stato derubato e sequestrato? Scusa. Da ladri. Da chi? Ma che vuol dire, Salvatore, da ladri? Aspetti, io aspetto. Ma la rapina. rapina, la rapina più forte è quella che ci stanno mettendo in croce dalle tasse. Dalle tasse, quella è stata la rapina più grande. Questo posso anche dare ragione sulle tasse. Sì, no, è così. Ho capito, ma. Bravo, organizziamo questa indignazione. Guardi, sono in autostrada. Bravo. Scusi, se Salvatore, quanto guadagna? Se gli diamo l'ordine, che fa? Mi metto per traversi in autostrada e blocco tutto. No, fermo! No, lo faccio! Ma come per traversi in autostrada? Anzi, in diretta, invito i miei colleghi a farlo. Direzione nord, direzione sud. Ma cosa? E poi siamo qua, quello stronzo di Berlusconi. Ma scusi, ma Salvatore, scusi. Ma hai capito io sono, bisogna fare così, bisogna fare. Scusi, Salvatore, quanto guadagna lei all'anno? Quanto io guadagna? Sono 6 mesi che non porto lo stipendio a casa. Vabbè, ho capito, per carità, mi dispiace, però. No, Cruciani, guardi, allora, sono molto agitato perché non è da adesso. Beh, mi sembra un pochino agitato, mi sembra, sì. Ma ha ragione. Molto agitato, molto perché agitato. Ha ragione, parecchio, ha ragione perché non capisci che tutto cambia, monta l'indignazione in questo paese, basta. Ma quale indignazione? Allora, se non fanno le cose per bene. Posso parlare un attimo? Sentivo la telefonata di prima che perdeva il posto di lavoro, perdeva il posto di lavoro a 50 anni. Vabbè, succede nelle società, nelle società dove vige l'economia di mercato, allora, capitalism, come direbbe il nostro amico come si chiama? Lutwak. Come direbbe il nostro amico? Posto di lavoro, come direbbe Lutwak, Parenzo? Posto di It's a capitalism. It's terrible but it's wonderful because it's capitalism. Cioè il posto di lavoro, signor Lutwak, si può perdere, no? In America noi Lehman Brothers it's very good, the person prendono, come tu dici, le casse e tutto è fallito e vanno a casa con le casse. It's capitalism. Qual è il problema, Salvatore? It's capitalism. Il problema qual è? Ho capito, non c'è un mondo perfetto. Quel poveraccio cosa fa adesso? Ho capito, Salvatore, può succedere di perdere il posto di lavoro. Che cosa può succedere? Guardi, io ho pagato le tasse su degli insoluti che mi hanno fatto, dovuto pagare le tasse allo Stato, va bene? Sì. E quella lì come me la chiama? Bravo. Una rapina. Ma quella è un'altra cosa, certo. Bravo. Questa non è democrazia, questa è dittatura. Ma lei che vedevo un programma in queste serate a casa, per quelle volte che ci capita che ci sto, su Benito Mussolini, che voleva nascondere agli italiani tantissime cose, ha nascosto tante cose, voleva fare il dittatore come l'ha fatto, insomma, e voleva fare tutto come diceva lui, perché l'impatto, la pace doveva essere bella, no? Così ci stanno facendo adesso, così ci stanno facendo adesso. Guardi, ma veramente, io sono propenso a mettermi per traverso in autostrada. Io lo sconsiglio. Però no, lei cosa vorrebbe fare adesso? Mettersi di traverso, che significa? Lei è in autostrada adesso, no, giusto? Sì. Che cosa vorrebbe fare adesso? Nord. Mi spieghi cosa vorrebbe. In che zona cosa si trova? Fare? In che zona si trova? Prima mi dica su. A Valdarno. Valdarno, cosa vorrebbe fare concretamente? Mettermi per traverso, bloccare tutto, non si passa. Ma perché cosa? Perché cosa? Perché cosa? Per protestare. Contro che cosa? Contro chi? Contro tutto, contro ma che vuol dire contro tutto? Contro il sistema. Ma quale questo sistema? Questo stronzo qua che mi deve venire a dire che va a 300 all'ora in autostrada, che si può permettere tutto e qui non si può mettere il piatto a tavola. Ma stiamo scherzando. Ma ho capito, quello va a 300. Ma quello va a 300 all'ora perché ci può andare in Germania a 300 all'ora. Ma si deve schiantare a 300 all'ora. Vabbè, ma si che vuol dire? Si deve schiantare a 300 all'ora quello lì, come tutti quanti gli altri. Perché qui, purtroppo, il popolo è stanco, è stanco. Si fermi un attimo. Che abbiamo? La borsa, 19:30. Siamo qui, 800 24 00 24. Ci sarebbe anche da discutere, caro Parenzo, della questione della Chiesa, perché c'è un grande movimento online, Vaticano pagaci tu la manovra finanziaria, che vuole spingere il governo, i parlamentari a sostenere l'idea che bisogna cancellare le esenzioni fiscali di cui gode la Chiesa. Immagino che tu, da vecchio anticlericale, sei d'accordo o sbaglio? No, ma qui, guarda, caro direttorissimo, non è questione di essere clericali o anticlericali. Primo, la Chiesa ha sempre detto che il denaro è lo sterco del demonio. E allora, cari amici della Zanzara, non si capisce perché, se uno trasforma la casa del pellegrino in un ostello a 4 stelle non debba pagare una tassa come qualsiasi albergatore di questo mondo. Non si capisce perché. Sì, sì. Questa è quindi una questione di buonsenso. La seconda questione è che nei momenti di crisi come questo, un buon gesto, come direbbe il nostro amico Speroni, un buon gesto avvicinerebbe le anime, il Vaticano, il clero, la Chiesa, al popolo. Che tu dunque invochi un buon gesto da parte del Vaticano, ma non è che bisognerebbe cambiare le leggi, è complicato. Comunque non credo che il Vaticano abbia la pur minima intenzione di risparmiare questi quattrini. Ma quella è di essere anticlericali. È questione che chi ha più soldi deve pagare, amico mio. La cosa che ha fatto arrabbiare il signor Salvatore, però, è un'altra, se non mi sbaglio. Salvatore, Salvatore ha ragione. No? Salvatore si è incazzato come una bestia perché ha sentito che il signor Speroni una parte dei rimborsi che gli dà il Parlamento europeo se li mette in tasca. È vero, Salvatore? Certo, è così. Ma lei, così ti avrei sentito. In che zona è lei dell'autostrada? Io sono in autostrada in A1. È a Valdarno. Valdarno. Si è fermato? Sì, sono fermo. Ah, bravo. Non è che si è messo in mezzo alla strada, no? Allora, Cruciani, io il discorso è questo. È da un po' di tempo che sono incazzato. E stasera mi è stata data l'opportunità, guarda caso, di parlare in diretta. Io di mettermi in traverso in autostrada stasera non lo faccio. Non lo faccio perché per rispetto del mio amico che mi sta dando un po' di lavoro, e sto camminando con la ditta col camion del mio amico. Va bene? Ecco. E per rispetto tuo che non lo faccio. Ma io ho ancora i miei camion. E mi ritrovo sul camion del mio amico che ha capito la situazione per darmi una mano, perché quando sono stato rapinato. Vabbè, ma adesso le sono successe delle cose che prescindono dalla situazione economica. Ah, rapinato in che senso? Non c'entrano niente. Però nessuno ha fatto niente. Mi è stato dato del ladro perché sono stato accusato di essere coinvolto nella rapina. Mi ha portato via il camion con il carico, ho dovuto e sto ancora pagando le pene, va bene? Ho perso il lavoro, il lavoro, ho dovuto chiudere la mia ditta, va bene? Le banche mi hanno chiuso le porte, va bene? E qui si viene a parlare di andare a fare il comizio per contro l'evasione fiscale. Ma l'evasione fiscale di che cosa? No, ma scusi, che c'entra il comizio contro l'evasione fiscale? Ma di che sta parlando? No, allora, aspetti un attimo. Qui si sta parlando di aiutare l'economia e di andare a picchiare contro gli evasori fiscali. No, quelle sono parole. La Lega che dice che bisogna combattere l'evasione fiscale. Sono parole. Però in effetti chi evade è un reato. Vabbè, allora? Allora cosa? Vabbè, Salvatore, mi sembra che lei sia un po' confuso. Io non ho i soldi da andare a pagare. Sì, ho capito, Salvatore, però adesso rimetta un po'. Rimetta ordine. Massimo da Rimini, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Grazie per avermi richiamato. Io avevo ascoltato l'onorevole Speroni anche nel periodo in cui la trasmissione era condotta da un altro giornalista, perché lei era in ferie, immediatamente dopo l'approvazione della... Dica, vada sodo. E anche allora, Speroni e Speedy Gonzales si era divertito. Chi come è Speedy diciamo Gonzales? Noi, Speroni. Perché Speedy Gonzales? Come uno che va ai 300 all'ora. Ah, ho capito. Come in quel lo chiamerebbe senso. Lei? E anche allora, e come diciamo noi da queste parti, io sono romagnolo, disse parecchie patacate, alcune anche simpatiche, però stasera ha detto delle falsità senza che lei lo controbattesse, soprattutto per quello che riguarda il cosiddetto scalone di Maroni, che è stato poi abolito dal governo Prodi, e lui ha detto che è ancora in vigore. E poi ha detto che l'INPS è in grado di pagare le pensioni per decenni, quando stamattina, e io credo più a Oscar Giannino che a Speroni, se stamattina Giannino ha detto che le pensioni vengono pagate con 70 miliardi dai trasferimenti della fiscalità generale. Ecco, queste cose qui sarebbe bene, magari in una trasmissione che vuole essere seriosa, non seria come la sua, sarebbe bene precisarle. Ebbene, l'ha detto lei. Bene, Massimo, grazie. No, l'ha detto Oscar Giannino. Sì, ho capito, adesso lei ce lo ripete e dunque corregge alcune cose dette da Speroni. 1938 800 24 00 24, il figlio di Gheddafi è stato liberato dai lealisti. Muhammad, situazione molto ancora molto caotica naturalmente a Tripoli. Signor Zaia? No. Sì, buonasera. Buonasera, presidente del Partito Nazionalista del Popolo Italiano. Ma che le è venuto in mente di fare questo? Mamma mia. Di fare che cosa, mi dica, Cruciani? No, scusi, mamma mia. Signor Zaia, di fare questo annuncio... Questa di porcheria, diciamo. Di questo, così, di questo reclutamento... Ma non è vero, perché... Come non è vero? Non c'è nessun reclutamento. Un appello in rete per i nuovi militanti, no, lei ha c'è fatto. C'è un annuncio di un convegno che verrà fatto il 24 e il 25 settembre. Vabbè, guardi che fare reclutamento non è un crimine. Del 24 e 25 settembre? Del Popolo Italiano, dove... Sì? Gli iscritti o quelli che si vorranno iscrivere, sì, verranno precandidati, sì, nelle liste che noi presenteremo alle prossime elezioni. Vabbè, è un reclutamento. Ah, quindi scusi, Cruciani, una notizia. Aspetta, questa frase reclutamento, la, no, sta usando lei. Ho capito, ma adesso traduco, è un reclutamento per la costituzione, per il rafforzamento di un partito che poi si vuole presentare alle elezioni politiche, di questo se si... vuole porlo così, sì, è così. Senta, ma lei in questo video che divisa aveva? Ma io ho una semplice camicia bianca, una camicia... invece di averla verde color vomito del topo, come ce l'ha il Bossi paralitico nazionale che sta facendo l'accordo con il PD, sì, per fregare il governo Berlusconi. Perché non parliamo di questo, Cruciani? Beh, possiamo anche parlarne, scusi, ma... Beh, c'è un accordo segreto tra la Lega e il PD... per far cadere il governo Berlusconi. Adesso l'accordo segreto, signor Zaia, lei, la politica spiegata da Gaetano Zaia. Adesso scusi, signor Zaia, rimaniamo alla camicia bianca. Lei aveva una camicia bianca, poi un pantalone nero, una cravatta nera, una cravatta nera e uno scudetto tricolore. Uno scudetto, però è una divisa che ricorda un... Non è una divisa, è un abbigliamento, perché un'abbigliamento. È una divisa. Un abbigliamento da coglione nazista. In divisa, Cruciani. Dico, Bossi è in divisa allora, secondo lei? Ma no, Bossi mette sempre un qualcosa di verde. E io metto un qualcosa di bianco. No, per carità, ma insomma, non sto dicendo... Ma quelli che aderiranno al suo partito devono avere una divisa particolare? No, devono comprare una camicia bianca, una cravatta nera e uno scudetto tricolore, tutto qui. E perché queste divise tutte... Siamo sempre lì, ci ripetiamo. E perché la Lega c'ha la camicia verde? C'ha scritto Padania Libera. E noi abbiamo Italia, dov'è la differenza? Che loro sono secessionisti e noi siamo patrioti, quindi loro commettono un reato penale perché la secessione è punita dal codice penale, mentre il patriottismo no, perché il titolo quarto, articolo 52 della Costituzione, recita: la difesa, sì, della patria è sacro dovere del cittadino. Vabbè, intanto quindi Berlusconi dice... Noi fedeli ai dettami costituzionali, sì, stiamo facendo questo. Intanto Berlusconi dice: Bossi sbaglia, l'Italia c'è e ci sarà sempre. Non ho capito, Bossi... Berlusconi ha appena detto: Bossi sbaglia, l'Italia c'è e ci sarà sempre, perché a un certo punto... Allora, c'è qualche differenza tra noi e lui. Peccato tra voi che lui, chi, sia un mafioso. Il problema, ma chi, è Berlusconi, che in Italia, chi, la, chi, gente è ancora divisa. Chi è mafioso? Che Berlusconi è un mafioso e chi non lo sa ancora. Ah, vabbè, ok, ok. Ma ancora, guardi, non l'ho detto io, l'ha detto Bossi il 12 settembre del 1998. Vabbè, quello è... Una quello dichiarazione è... di Bossi, sì, non mia. No, per carità, che dici, Parenzo? No, dico, ancora parla questo nazista, questo signor Zaia, non l'hanno ancora arrestato. Se c'è Parenzo che incomincia con le sue fregnacce, chiude e ci salutiamo, Cruciani. Ma non l'hanno ancora arrestato. Perché non ho voglia di avere a che fare con quell'individuo. Io la denuncio, io giovedì, annuncio, sono molto serio, giovedì torno a Roma... Sì? E presenterò una denuncia contro questo signore che gira con una divisa nazista, sì, perché o finisce nelle patrie galere o in un ospedale psichiatrico giudiziario deve finire questo, perché, signore. Perché? Perché è un nazista, veste come un paranazista, dice via gli stranieri, via i gay, ha fondato un partito neofascista, non può circolare questo signore liberamente, si costituisca, lei è un latitante, si costituisca e si vergogni, e la smetta di andare in giro a parlare in televisione e alla radio, si vergogni. Cruciani, vai a prenderla nel culo che ti piace. No, che Crucianico, no, Zaia, si fermi, no. Ma guardi, che... se uno va in giro vestito come un nazista... Guardi, Cruciani, non ho tempo per queste no, faggianate. Scusi, se vogliamo parlare di cose serie, bene, se no, no però, la comunicazione. Scusi, non sa, non ascoltare gli insulti del no, però, Zaia, non esponente della comunità ebraica. Scusi, Zaia, scusi un attimo, però lei, a parte la parolaccia che ha detto prima... No, non la volevo dire a lei, volevo dire Parenzo. Ho sbagliato cognome. Ma è uguale. Quello è un povero finocchione, guardi, è un travestito. Ma ancora questa storia, basta. Bravo. Non è degno di nota, ma no, ma lei sembra bello che un uomo, scusi, si faccia mettere l'uccello nel culo. No, fermo, zitto! Lei è l'ultima cosa che ha detto, la stanno già venendo ad arrestare, nazista schifoso. Cretino. Scusi. Cosa vuoi arrestare? Lei deve stare o in galera o in un ospedale psichiatrico. Ma sta finendo cosa? Il popolo italiano è stanco. Ma lei deve stare in un ospedale psichiatrico. Lei deve stare in un ospedale psichiatrico. Lei è malato. Aspetta un attimo. Ma chi è che lo vuole? Scusi, perché dovrebbero cacciare Parenzo e altre persone? Perché Parenzo è un nuovo omosessuale. Ma chi l'ha detto? Chi lo sostiene? Omosessuali. Primo, no, chi lo sostiene? Secondo, perché gli omosessuali dovrebbero essere cacciati? Scusi. Perché sono una casta a sé pericolosissima. Perché sono dei pervertiti, sono dei malati. Dunque, tra i suoi nel suo programma c'è la cacciata di tutti gli omosessuali. Non è vero. Nel mio programma non si parla di omosessuali. Questa è una bugia giornalistica. Mi scusi. Scusi, non vede, caro Luciani. Il mio programma non parla degli omosessuali. Questa è una baggianata che avete. Ma scusi, ma l'ha detto lei che è una casta pericolosissima che deve essere cacciata dall'Italia? L'ho detto io, non è nel programma. Cosa c'entra? Eh beh, uguale, scusi, abbia pazienza. No, uguale il carbonaro, lo dice. Uguale non è. Questo è un mio pensiero. Non è nel programma. Non è nel programma. Quindi il programma non c'entra niente. Vogliamo fare il distinguo, non è nel programma. Non è nel programma. La cacciata di chi è nel programma? Nel programma c'è la cacciata di chi, signor Zaia? Non sento, scusi. Scusi, nel suo programma, in questo fantomatico programma della... No, non è fantomatico. Perché è fantomatico, Cruciani? Perché usa questi termini? Vabbè, nel programma. Veda, lei è fazioso. Fantomatico che vuol dire? È un programma. Ma esistente, di un partito esistente. Benissimo. Perché è fantomatico? No, è vero. Mi spieghi questo termine. Ma no, ha ragione. Le sto dando che ragione sul fantomatico. Sì. Non è fantomatico. Ma come mai la polizia non è ancora intervenuta? Questo voglio capire. Allora, Zaia, scusi un attimo, nel programma senza fantomatico del suo partito, sì, è prevista la cacciata di qualcuno dall'Italia, di chi? No, ma la polizia intervenga subito, l'allontanamento coatto di tutti non italiani. Ma che vuol dire l'allontanamento coatto di tutti non italiani? Comunque non è italiano, deve andare via dal territorio. Ma non è realizzabile questa ma cosa. Ma chi lo dice lei? Sarà una nostra legittima aspettativa oppure no? No, io veramente non. Tra quelli non italiani chi sarebbe? Chi ci sarebbe, per esempio? Ascolti un attimo. No, questo è un programma di un partito che si propone agli italiani. Sì. Se noi presentiamo. Programma per la liberazione dall'Italia, tra l'altro. Beh, perfetto. Se noi presentiamo il partito alle elezioni, il partito ha un certo numero di voti ed il partito sarà forza di governo, il partito farà queste azioni politiche che sono legittime di un partito. Dov'è il problema? Non vedo lo scandalo. Ma lei finirà in galera, dico io, sono delle cose gravissime. Che uccidiamo nessuno, né tantomeno che minacciamo nessuno. Stiamo dicendo che se questo partito diventa forza di governo, farà delle leggi, cosa che mi sembra quelle del programma. Cosa che mi sembra molto molto difficile, signor Zaia. Adesso non è... nella vita può succedere di tutto. No, non ho capito. Lei sta facendo il giornalista. Io non posso andare al Parlamento, mi perdoni. Beh, insomma, mi sembra un po'. Beh, che lei possa andare in Parlamento è anche possibile, perché, per carità, posso succedere. Ho davanti a me una persona che ha denunciato 2 ore fa Zaia. Come? Ce l'ho qui davanti. Ma perché? Il presidente della comunità ebraica di Roma, il signor Pacifici, lo ha denunciato 2 ore fa. E perché? Per che cosa? Perché? Te lo dirà lui. Perché. Signor Pacifici? Pronto? Sì, buonasera. Come mai lei si trova accanto al signor Parenzo? Pronto? Sì, come mai lei si trova accanto al signor Parenzo? Con chi sto parlando? Sono Cruciani. Ah, salve, siamo in vacanza insieme. Abbiamo l'abitudine noi ebrei di fare a volte l'attività insieme, se non dà fastidio al signor Zaia. Insieme normalmente. Come, scusi, allora, Zaia, io che dice? Fanno anche quella di spionaggio normalmente, perché è risaputo che le comunità ebraiche sono la longa manos del passato. Beh, risaputissimo, certo. Comunque credo che il signor Zaia stia continuando a compromettere la sua posizione. No, pensa alla tua di posizione, questa è casa mia, Pacifici, vattene a Gerusalemme a dettare legge, non signor in Italia. Zaia, guardi, allora, hai capito, Pacifici? Un attimo, Zaia, Pacifici. Sai. Allora, signor Zaia, buongiorno. Sì. Allora, in primo luogo, noi viviamo in un paese dove probabilmente noi abbiamo accolto i parenti e gli antenati del signor Zaia. La mia famiglia è qui da 2200 anni, quindi non dobbiamo dare lezioni di italianità a nessuno. siamo romani e forse anche romanisti, se questo può temperare gli animi. Il secondo argomento... Ma lei ha presentato una denuncia. Roma, noi tifiamo la Roma, se lo ricordasse il signor Saia, se la cosa non gli dà fastidio, ma forse gli danno fastidio pure i terroni come noi. Scusi, pacifici. Romani, probabilmente, non in quanto ebrei, non vorrei che incorresse nella legge Mancino. Allora, noi ci troviamo ma vedi pacifici, è lui che fa questi giri di valzer, perché io con voi ci ho lavorato, quindi so come funziona. Io non ho mai lavorato con l'ebraico, guarda che io fui invitato dal tuo ambasciatore come ospite d'onore, quindi non ci ingirare con sta manfina degli ebrei. Vabbè, adesso perché io ci sono venuto a pranzo e a cena da voi, quindi sai, con me non attacca. Va bene, quando non abbiamo più Saia, si fermi un secondo, voglio diviso paro, sono incominciato le storielle, non fare queste manfine degli ebrei, perché io non ho mai fatto dichiarazioni né contro gli ebrei né contro nessuno. Volevo sapere perché Pacifici ha presentato una denuncia contro Saia. Non abbiamo presentato una vera e propria denuncia, io ho fatto un appello al ministro Marroni tramite l'agenzia ANSA nella tarda mattinata, nella quale ho spiegato la nostra preoccupazione come comunità ebraica di fronte alle esternazioni di un signore che dice di volere camminare con le camicie brune per Genova. Purtroppo per lui Genova la conosco molto bene e l'ho detto all'ANSA, è la città dove mio nonno ha fatto il rabbino capo di quella città, dove è voluto rimanere al suo posto e dove è stato catturato dalle camicie brune, è stato torturato e poi deportato e gasato da Auschwitz. Che dovrebbe fare Maroni secondo lei? Portano a sfilare dei gruppi su un'ideologia che si rifà ad un percorso che immaginavamo che fosse lontano dallo spirito del democratico del nostro paese, credo che ci debba indignare, al di là del fatto che lui adesso dica che non ce l'ha con gli ebrei, ma nel momento in cui ce l'ha con una certa categoria di cittadini. Io non ho mai parlato contro gli ebrei, no, contro i questo ebrei, è un fatto che deve non preoccupare le coscienze mettere di in bocca dichiarazioni che io non ho mai fatto. Va bene, ho capito, lei voi siete preoccupati per una... No, dica a Pacifici, perché non chiede al suo amico il primo ministro Sai, un fermo, non si capisce niente, Pacifici, avete chiesto a Maroni che cosa? Abbiamo chiesto al ministro, al sindaco di Genova, al questore di Genova, al ministro Maroni di intervenire. Non possiamo accettare che camici e bruni sfilano, possano sfilare su una città come Genova e in nessuna città italiana. Vogliamo verificare se ci sono gli estremi, non solo su quelle che sono le norme della nostra Costituzione, anche le norme transitorie che vietano la ricostituzione del partito fascista, ma soprattutto se in base alla legge Mancino possono esserci gli estremi in base alle dichiarazioni che ha fatto per denunciare questo signore. Va bene, grazie Pacifici. Allora sai, io voglio capire una cosa, anche la Carfagna ha aperto un'istruttoria. Di chi è la Carfagna? È un ministro della Repubblica. Un ministro, abbiamo un ministro che si chiama Carfagna. Vabbè, sì, ministro delle pari opportunità. Perché c'è un ministero delle pari opportunità in Italia. Sì, fino a prova contraria è così. Parenzo, ci sei? Sì. Ma come si chiama questo certo ministro? Certo che ci sono. No, che non la sento male, Cruciani, purtroppo. Carfagna, il ministro Carfagna. Ah, ma lei dice quella che ha succhiato l'uccello. No, no, sai, no. Ma come no? L'ha detto la Guzzanti. Ma no, ho capito, l'ha detto ma la Guzzanti. Ma no, sai, no, su. Perché quello era un uccello di ma Stato, no, sai, discusi, l'uccello del Presidente no, del Consiglio. No. Come no? Ma sai, no, si fermi. Ma cosa mi fermo? Ma Cruciani, ma lei cosa dice? Ma abbia pazienza, ma lei sta dicendo delle cose di una gravità assoluta, abbia pazienza. Ma gravità dicendo la verità che dice tutto il popolo italiano, ma non parliamo di queste baggianate. Ma lei sta dicendo delle cose che, di cui si assume. Ma che cosa? La Carfagna ma cosa no, fatto? Fermo! Lei si deve fermare perché lei si assume la responsabilità delle ma cose tutto, gravissime assumo, sulla signora Carfagna, ministro della Repubblica. No, non dica nulla! Non dica nulla! No, non voglio sentirlo. Ma Berlusconi ci ha ordinato questa azione politica, non ho capito. Quindi la Carfagna cosa fa? No, come Berlusconi? Come Berlusconi? Come Berlusconi? Come agisce? Come agisce? Queste cose le ha ordinate Berlusconi, mica io faccio le cose così. Come ha ordinato Berlusconi? Scusi. Berlusconi ha ordinato queste azioni politiche e noi le stiamo facendo, mi scusi. Ma lei pensa che io l'articolo che ho fatto l'ho fatto così? Mi ha chiamato l'azienda 20 giorni fa da Roma. Quale azienda? Beh, servizi segreti. Sì, servizi segreti. Vabbè. Ma io, il mio telefono è controllato, guardi, Cruciani. Basta vedere chi mi ha telefonato e mi ha detto di fare un articolo sugli omosessuali. Perché ci prendiamo in giro, Cruciani? Mm. Poi scusi, dove avrebbe fatto questa denuncia alla Carfagna? Non ho capito. La no, procura? Ma non lo so che cosa ha fatto. Io voglio capire, innanzitutto, quello che ha detto lei prima. È Berlusconi. Il procuratore Ferrara, che è una brava persona. No, ma adesso io lasciamo perdere la procura. No, no, però so che il mio amico Delfo Galileo Faroni, giorni fa era col procuratore al bar in via Torino, mi ha detto che è una bravissima persona, che insomma guardi, veramente me... applica sempre la legge, è quello che ha arrestato Lady Hazel, quindi il procuratore Ferrara senz'altro scusi, prenderà provvedimenti. Sai, ora. Io non lo so come andrà a finire dal punto di vista giudiziario. No? La questione Galileo Faroni, lei non lo conosce? No, amico no, del no non, non conosco nessuno, io voglio capire da lei una cosa, Saia. Cosa lei... vuol capire? Glielo sto dicendo. No, lei ha detto, denuncia. Me l'ha scusi, detto Berlusconi. Dal procuratore. Il procuratore Ferrara è una persona per bene, io non lo conosco, ma il procuratore Ferrara sa che io sono bravo. Ma lei parla in collegamento da un ospedale psichiatrico, immagino, no? Come? Cosa dice? No, dico, lei sta parlando, sai, in questo momento in collegamento da un ospedale psichiatrico, cioè l'ora d'aria che ha, giusto? No, sta parlando della casa sua. Devi stare zitto. È l'unica ora d'aria che lei ha, e quindi dice qualsiasi stronzata alle passi per la decada del cervello. Cosa, no? Perché? Perché ho detto che il professor Delfo Galileo Faroni è andato a prendere un caffè in via Torino col procuratore. Ma chi è sto professor Faroni? Chi è, di chi sta parlando? Come di chi sto parlando? Non parlo queste persone. Ma lei si rende conto della gravità della sua malattia o no? No, io mi rendo conto che tu sei... Ma lei ha bisogno di cure immediate. Sai, quando il gioco si fa duro, i duri incominciano a giocare. Ma quale duro? Ma lei, poverino, ma in condizioni... Si spaventano i nomi e cognomi. In condizioni pietose. Lei ha del cuore al posto del cervello. Ma lei farà giustizia. Se ho sbagliato io, verrò punito io. Se ha sbagliato qualcun altro, ma non è punito, ma lei è completamente scriteriato, poverino. Scusi, signor Zaia, scusi un attimo. Lei mi ha detto prima, questa mia iniziativa... viene dall'alto, cioè è chiaro, è Berlusconi che mi ha indicato, certo, la strada. Ma questa è una cosa gravissima quella che lei sta dicendo. È gravissima, scusi. Cioè ho l'imprimatur di Berlusconi, dice lei. Che significa? Io non posso fare un'operazione politica su ordine del Presidente del Consiglio, mi perdoni. No, ma scusi, ma qual è la prova? Secondo mi dia una prova. La prova di che cosa? La prova del fatto che Berlusconi le ha detto... La prova in tribunale si porta. Ma no, una prova, che ne so, mi dica, ho parlato con Berlusconi... Non le devo dire niente a lei, mi scusi, io le sto dicendo... Io sto agendo perché ci sono stati ordini superiori, fine. Beh, ordini superiori, facciamo chiarezza, ordini superiori da parte di chi? Che vuol dire da parte? Gliel'ho appena detto. Berlusconi, cioè lei ha parlato con Berlusconi? Io non ho parlato con Berlusconi, devo per forza parlare con Berlusconi. Beh, se lei mi dice ho avuto il via libera... Posso parlare con un emissario di Berlusconi? No? Appunto, non questo volevo sapere. Con chi ha parlato? Ma saranno fatti i nostri con chi ho parlato. Comunque ho l'imprimatur di Berlusconi per fare questa roba. L'imprimatur, certo, c'è un accordo che ma scusi, io posso agire politicamente così. Ma si è appena detto che è un mafioso Berlusconni, qualche secondo fa no, detto io, no, io le ho letto quello che diceva Bossi. Ma lei ha detto che tra l'altro di essere d'accordo con questa cosa. No, io non ho detto ma di essere d'accordo. Veda come lei mette in bocca. Ma cose come non no? Ma io le ho letto quello che ma ha lei detto, detto siccome Bossi lo diceva il 12 settembre 1998. Ha detto non lo posso dire io, ha detto lei parlava di una citazione di Berlusconi e di Bossi. Io le ho detto cosa dice Bossi. La verità, caro Cruciani, è che c'è un accordo segreto per far cadere Berlusconi. Vabbè. Ho capito. L'accordo segreto. L'accordo segreto per far cadere Berlusconi. Certo, vabbè. Tra la Lega e il PD. Vabbè, comunque lei mi dice per fare questa iniziativa politica ho un accordo con Berlusconi, giusto? Sì, posso avere un accordo con Berlusconi. Sì, perché lei può averlo, però appena detto prima aveva detto che era un mafioso, però comunque. Io non l'ho detto, non l'ho detto. Sì, sua moglie che ruolo avrà in questa formazione politica? In questa, diciamo, nel percorso di questa formazione politica? Sua moglie, la signora Cannizzaro. La signora Cannizzaro è Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. Vabbè, è uguale. No, uguale, scusi. Vabbè. Lei non è Santoro, lei è Cruciani, non è uguale, ma... non ho capito. Vabbè, non uguale è uguale. Perché, poveretto. Vabbè, perché dici poveretto? Ma perché è un poveretto? La moglie ci perde ancora quel signore. Sono due, ma io dico solo una cosa, perché la cosa è serissima. Spero che la procura di Genova il 24 e 25 vada lì, ordini un arresto, faccia una bella retata di questa manica di quattro stronzi, perché non ci sono altre parole per descriverli, e li portino via tutti. Dopodiché, io dico anche questo. Che dici? Io che sono un non violento di natura, gandiano, dico che se uno va in giro vestito come un nazista, deve mettere nel conto che qualcuno dotato di cervello gli tiri come minimo due calci del sedere. Cioè, è una cosa che uno mette nel conto, secondo me. Lei l'ha messo nel conto, signor Zaia? Io ho messo nel conto che a Cruciani, con la mano destra legata e quella sinistra libera, lo prendo a schiaffi e lo faccio arrestare. No, ma Cruciani che c'entra? Guarda, sta Parenzo. Questa Parenzo. E questa sera, purtroppo, guardi, veda, la mia mente lo rifiuta anche come essere umano, quindi non lo considero. Mi scuso che cito lei, ecco, le ma mie sensazioni che sono contro questo viscido individuo. Scilipoti che veda proprio non riesco neanche a pronunciare. Ma Scilipoti avrà un ruolo in questo movimento, suo movimento, no? Sono il presidente, scusi. No, Scilipoti, che... Scilipoti. Ma Scilipoti è il presidente del Movimento di Responsabilità Nazionale. Lei lo voleva dirigente del Movimento Sociale Destra Nazionale. Noi abbiamo proposto a Scilipoti il coordinamento del Movimento Sociale Italiano. Lui che ha fatto? Ha rifiutato? No, lui ha ritenuto che in questo momento di continuare a guidare il suo movimento politico e c'è, diciamo, una collaborazione tra i due partiti politici. Ma quale collaborazione? Non credo che... Vabbè, comunque, abbiamo la pubblicità. Matti, siamo tutti matti, curiamoci, insultiamo. Bene, questa è la Zanzara, 800240024, sto per salutare, stiamo per salutare, Parenzo, Gaetano Zaia. Io lo saluto e spero che si aprano presto le porte del carcere, diciamo. Io spero che per te si aprano presto altre porte, Parenzo. Quali porte? Si apriranno molto presto. Quali porte, scusa? Quali... Minaccia? Quali porte si dovrebbero aprire, signor Zaia? Minaccia? Promesse di che cosa? Lei non chiuderà per quella città. Come un bravo ragazzo le porte del paradiso, no? Le garantisco che lei a Genova non metterà piede, caro Zaia. Ma che dici? Che dici? Il 24 e il 25 non metterà piede da nessuna parte, caro Zaia. Hai finito di fare ladrare. Cos'è un cane che avete lì per caso, Cruciani? Cosa avete? Qualche cane lì legato? Allora, lei però, comunisti, omosessuali, zingari, ebrei, marocchini, albanesi, islamici di vario colore, tutti via. Non è vero, io non ho scritto mai questa frase. Dunque, chi virgoletta questa... È un falso giornalista. È un falso giornalistico. Sì, è un falso giornalista. Io questa frase non l'ho scritta. Però gli omosessuali, lei personalmente, non il suo partito, li vorrebbe cacciare via? Gli omosessuali sono il male d'Italia. Il male d'Italia. Sì, sono i peccatori, sono blasfemi. I comunisti? I comunisti sono il male assoluto. Il male assoluto. Anche gli quelli ebrei? Gli ebrei? Gli ebrei no, gli ebrei sono un popolo, io sempre... stimato e ben voluto il popolo ebraico. Adesso stimato. Ma come no? Ma guardi, io sono stato ospite d'onore dell'ambasciata. Sì. È inutile che ci girate intorno con questa storia. E le persone di colore? Ma i negri vorrà dire lei. I negri, sì, i negri. Perché i negri sono bianchi, rossi e verdi? Sono negri. I negri, che vuole fare? Che vogliamo fare con i negri? I negri, sì, che ne so, saranno a casa loro, mica perché sono negri. Anche se sono biondi vanno a casa loro. Via tutti i negri dall'Italia. Ma non è un problema di colore, Vesa. E di che cosa? Possono essere anche biondi, con gli occhi azzurri, sì, californiani. Però tutti gli stranieri fuori, tutti gli stranieri. Andare via. Tutti gli stranieri fuori. Tutti gli stranieri. Non è un problema perché è negro, perché è giallo, perché è caucasico, perché poi le razze esistono. Esiste la razza caucasica, certo. Esiste la razza asiatica, esiste la razza negroide, quindi le razze sono anche gli idioti, come dimostra la televisione. Non stiamo parlando perché è una razza, assolutamente. No, perché stiamo dicendo tutti gli stranieri, non è perché uno è giallo, rosso, verde, bianco. Tutti gli stranieri via, ma lei si rende conto che è una cosa che non può esistere? Ma quasi no? È già accaduta, perché mi rendo conto? Ma quando è accaduta, scusa? È accaduta diverse volte. No, tutti nella storia del mondo. Tutti gli stranieri fuori da un paese. Tutti gli stranieri si devono andare via. Tutti gli stranieri devono andare via. Sì, no. I loro beni confiscati. Pure. Confiscati al popolo italiano. Sì, al popolo, che significa al popolo italiano? Al popolo italiano, significa al popolo italiano. Al popolo italiano. Cioè al governo, lei dice. Al popolo italiano. Al popolo, cioè uno va, li mettiamo tutti questi beni, li mettiamo in mezzo alla piazza e ognuno arraffa quello che ha. Verranno ridistribuiti. Ridistribuiti. A tutti gli italiani che in questo momento non lavorano e hanno fame. Sì. Grazie al lavoro rubato da tutti i non italiani. Benissimo, ma lei sa che sta delirando? Io sì. Lo sa che sta delirando, sì. Ma io certo che sto delirando. È finita l'ora d'aria, adesso la ricordi di nuovo, no? Nel mondo, caro Cruciani. Come? Solo coloro che sono folli cambiano il mondo. Ah, lei dice di essere folle, dunque, un po'. La follia è santità, sa? Ecco, meno male, adesso arrivano i camici bianchi. La follia è santità, caro Cruciani. Poi se io sono folle, lo dirò la storia, caro Cruciani. Ecco. Vabbè. Rimettetegli la camicia di forza. Comunque, ma lei vuole sfilare per Genova o no? Ma non è vero. Genova ci sarà semplicemente, sì, tra l'altro in un luogo privato, sì, quindi vabbè, una riunione in un luogo privato tra, sì, privati cittadini. Dov'è, sì, lo scandalo, mi perdoni? No, arrestateli tutti. Questo, no, restiamo a te quanto prima, Parenzo. Guarda, ti garantisco che vengo io personalmente a catturarti, non ti preoccupare. Ma fare cosa? Perché volete catturare Parenzo? Beh, visto che lui vuole fare arrestare me, io gli ricambio la cortesia, però vado direttamente io ad arrestarlo. Perché non chiedo a Parenzo perché dovrebbero arrestare me? Perché chiede a me perché voglio arrestare Parenzo? Perché è un po' fazioso, però. Scusi, la signora Concia, lei la sa chi è? Concia, lei lo sa chi è la signora Concia? Ma sinceramente no, Concia. Un deputato della Repubblica, del Partito Democratico, e si è sposata con una sua compagna in Germania da poco, no? E quindi è una pervertita, allora. Ma come è una peccatrice questa? Ma come una peccatrice? È una malata. Beh, una donna che si sposa con una donna è una malata. Scusa, una donna che si sposa con un uomo. Ho capito, ma in Germania è consentito sposarsi tra... So, ma qui siamo in Italia, non credo che sia consentito in Italia. No, in Italia non è consentito, no. E quindi veda, si vede che non si può fare. Ho capito, però... Poi non credo che la legge di Dio permetta questo, oppure vogliamo anche criticare la legge di Dio. Ma sa, la legge di Dio, gli stati sono fatti per avere leggi proprie. No, io le sto dicendo la legge di Dio, l'Italia è un paese cattolico. Ho capito, ma però non coincide la legge di Dio con quella dei singoli stati, lo sa benissimo. Non mi sembra che ci sia una legge degli uomini che dica che ci si possa sposare tra donne. Vabbè, comunque una pervertita le la chiama. Una per... È malata, sarà malata, io le potrei consigliare un buon psichiatra alla signora. Ma quanto tu... Scusa, Cruciani... No, volevo sapere quanto dura l'ora d'aria negli ospedali psichiatrici. Abbastanza, lo sai, ci siamo assieme. Ah, adesso no, stia calmo, le rimetto la camicia di forza, non si preoccupi. Vermiciattolo. Mi fai sorridere, vermiciattolo. Grazie, Saia. Grazie di essere stato con noi. 25 minuti, titoli del TG1. Libia, una svolta, i ribelli sono a Tripoli, hanno lanciato l'assalto finale al bunker di Gheddafi, i cecchini del regime sparano sulla folla. Berlusconi, Gheddafi si arrenda, eviti un inutile bagno di sangue, presto un vertice europeo, il Pentagono in race ancora in Libia. Effetto Libia sulle borse europee, Milano la migliore, nei paesi OCSE crescita frenata, ma l'Italia cresce più della media. Manovra, domani il confronto al Senato, pensioni, no della Lega, e Sacconi frena, forse va via il contributo di solidarietà, al suo posto lieve aumento dell'IVA. L'omicidio di Melania, per la prima volta il marito parla e si difende davanti ai giudici, entro domani la decisione sull'istanza di scarcerazione. Non è vero, ma ci credo, al Museo Archeologico di Napoli, uno dei più importanti al mondo, ci sarebbero i fantasmi, la prova sarebbe in una fotografia, fra conferme e smentite, l'ironia di una città. Siamo qui alle 27 minuti con la Zanzara, 800 24 00 24. Siamo usciti da una situazione piuttosto complicata, caro Parenzo. Terribile. Con il signor Saia, il signor Gaetano Saia del partito, non mi ricordo nemmeno come, nazionalista italiano, tanto è uguale, qualsiasi sigla non cambia la sostanza. Dove andiamo? A Vicenza. Olga, buonasera. Buonasera. Signora Olga, dica. Ecco, io desidererei che ci fosse una forte pressione, indagini, sì, sulla evasione fiscale in genere. Poi, visto che ci chiedono un obolo, perché questo obolo non ce lo dà la Chiesa, che possiede tante tante ricchezze in infinità? E mi riferisco a quanto ho ascoltato ieri da un'altra radio, Radio Radicale, ma non ha importanza. Quindi anche la Chiesa dovrebbe contribuire, visto il momento di difficoltà, e poi, per chiudere il cerchio, le cooperative rosse. Scusi, le cooperative rosse, le cooperative rosse però non è che hanno esenzioni, avranno agevolazioni che hanno tante altre cooperative, però insomma non è la stessa cosa, non può mettere sullo stesso piano l'esenzione dall'ICI eccetera che riguarda la Chiesa e la questione delle cooperative rosse. Vabbè, comunque un discorso. Io l'ho aggiunto così. Così, tanto vogliamo... per... No, così, se ne era sentito parlare nelle varie radio, perché io, essendo ipovedente, ascolto moltissimo la radio, e io ho ripetuto, poi lei, che è un giornalista, saprà meglio di me. Ecco, grazie, signora Olga, grazie. Michela da Milano, buonasera. Un po' giù. Buonasera Cruciani. Sì, dica. Senta, di là che noto che nel tempo si dà, a mio avviso, secondo me, sempre più spazio alla gente che urla e che delibera la zanzara invece che a un dibattito costruttivo. Quindi, ma infatti noi non vogliamo fare dibattiti costruttivi, Michela. Meno male. Presupposto è proprio quello. Cioè. Bah, lei è una persona che quando vuole sa usare la puntura della sua zanzara per stimolare. Forse per non ha capito ancora, Michela. Io non voglio fare dibattiti costruttivi. Forse non è ben chiara questa cosa. Sarei curiosa di sapere da lei, visto che ogni volta qualcuno le fa delle critiche, lei dice: io non voglio. Ma non è una critica, è un'osservazione. Faccio un programma radiofonico, non faccio un dibattito costruttivo. Qual è la peculiarità di questo programma? Ma lo senta, lo sente e se ne accorgerà. Non glielo devo spiegare. Sì, lo sento da anni. E allora se lo sente, ma è possibile che ogni osservazione che le faccio, ma non è un'osservazione, non è un'osservazione, lei sta dicendo che non si fanno dibattiti costruttivi, si dovrebbero invitare meno persone che strillano. Io dico semplicemente, a parte che non è vero che invitiamo solo persone che strillano, no, guardi che non mi riferivo alle persone che strillano invitate, mi riferivo che soprattutto al fatto degli ascoltatori. Noto che ascoltatori che urlano, fanno, sbraitano parolacce, mettono ma non c'è solo questo, gli si dà un quarto d'ora di spazio. Persone che cercano di riflettere, spesso lei se ne esce con uno e allora e sì, va bene, grazie, vabbè. L'Italia ripete. Allora mi dica qualcosa. È un suo modo di condurre. Mi dica. Io volevo aggiungere una cosa. Benissimo, mi dica qualcosa di illuminante rispetto. Non pretendo di essere più illuminante di altri, visto che qua tanto non facciamo dibattiti costruttivi. Devo di dire benissimo a Parenzo che ha le sue peculiarità, cosa dico? Magari, visto che siete due uomini così, una brava giornalista donna da affiancarla, ecco. Perché no una volta? Ecco la stupidaggine della sera. La troverà una brava, una. Ecco, scusi, Michela, io non mi posso trattenere però, per carità, lo dico con tutto rispetto, però se mi trattengo faccio un torto a me stesso. Ecco la cazzata delle 20:11, ce lo devo dire, me la sento così spontanea. Vabbè, con tutte le cazzate che ho sentito oggi alla zanzara, brava. Bravissima, così la voglio, viva, non tic e toc, tic e tac. Siccome ha sentito tante cazzate, ne dice anche lei una. Benissimo, ne abbiamo sentito un'altra. Perché non una giornalista donna? Ma non è questione di donna, uomo. Se uno funziona o non funziona. Funziona o non funziona. Cioè, se c'è una donna brava, polemica, capace di stare qui con noi, che sia la benvenuta, ma non perché è donna, semplicemente perché. Perché magari è arguta, ha delle cose da dire, punto e basta. Questo è il principio. Per le qualità che una donna. Ma no, donna, che cosa c'entra donna o uomo? Cosa c'entra anche quello, perché sento sentire le voci sue, di lei, di Parenzo, sempre gli ascoltatori maschi che chiamano. Ma non è vero! Chiamano molti, fate un sondaggio. Sì, quanti ascoltatori chiamano e quanti ne passate? Ma sa, sono cara, quasi tutti cara, uomini. Cara Michela. Sì. Però cara Michela, le voglio dire anche una cosa: la politica di solito è una cosa che appassiona di più gli uomini rispetto alle donne, va da sé, no? Per cui è abbastanza normale che ci siano più ascoltatori uomini che donne. Peraltro in generale la radio, e anche questa radio, ci sono più ascoltatori uomini che donne, Radio 24 in particolare. Insomma, è questa la situazione, adesso non è che gliela devo spiegare, il motivo è anche questo. Comunque mi fa piacere che abbia chiamato lei. Ma io infatti non è che voglio mettere la quota rosa della zanzara, c'è già la quota rosa, però io dico se questa è una cazzata quella delle quote rosa, abbastanza una cazzata, come... no, questa cosa della quota rosa possiamo come in transizione, non lo so, non ci voglio entrare in questa cosa, però dico anche per cambiare, così cambiamo. Beh, ci mettiamo una donna, cosa cambia una domani, una cosa, vabbè, grazie. Arrivederci. Luigi da Venezia, mi piace questa Michela, Luigi da Venezia. Brava. Buonasera. Luigi? Ciao Luigi, allora eccomi qua. Eccoci qua. Senta Cruciani, adesso lei non creda alle sue orecchie, guarda. Chi le ha dato dello stronzo, chi l'ha mandata a fare in culo, e chi l'ha insultata, chi ha dato del gay a Parenzo. Io invece vi voglio fare dei complimenti, sia a lei. Vabbè, che ma non a c'è Parenzo. Bisogno, Luigi. No, ma aspetti, ma le dico perché. Io è la terza volta che parlo con lei, sì. E sono sempre contento di parlare con lei. Sì. Ho parlato quando intervistava Scaiola, sì. Ho parlato quando intervistava Borghezio, sì. E stasera mi capita di parlare, e avrei voluto che non ci fosse, di parlare dopo che ha intervistato Speroni. Sì. Le devo dire la verità, Lei e Parenzo, rispetto a questi tre nomi che ho citato, siete dei giganti. Ma non deve metterci in competizione con questo. No, ma è importante quello che sto per dirle, siete dei giganti, perché sapete condurre, sapete parlare, non siete ignoranti. Scaiolo è ignorante. Ma Scaiolo è ignorante adesso? No, lasci stare, non parliamo di Speroni, che lei gli ha dato dell'ignorante 20 volte e lui non lo capiva. Mm. Borghezio invece ignorante non è. Mm. Borghezio è molto più furbo di quanto dia a intendere. Mm. Ma lasciamo perdere. Andiamo al mio tema adesso. Sì. Perché io vi ho chiamato in quanto esperti, sia lei come fascista, sia Parenzo come comunista. Ma non ho capito bene questa cosa, scusa, ripeta un attimo. Non è un'offesa, io sono esperto non è come fascista e lui sarebbe esperto come comunista. Ma non è un'offesa dare del fascista come non è un'offesa dare del comunista. Ho capito, ma è semplicemente non vero. Fascista. Anch'io sono fascista come lei, ma non mi offendo. Ma io non sono fascista per niente. Vabbè. Allora, diciamo che io le sto dando del fascista dopo averle fatto un complimento. Vabbè, che lei è un gigante rispetto a questi tre nani. Ho capito, Luigi, però scusi un attimo. No, però Luigi, davvero, l'abuso dell'alcol è un problema. No, Parenzo, mi ascolti, Parenzo. Lei è una persona apparentemente intelligente. Ecco. Grazie per apparentemente furbo. È apparentemente intelligente e sostanzialmente furbo. Cruciani invece è sia intelligente che furbo. Che furbo, sì. Ecco. Allora andiamo al dunque. No, è che andiamo al dunque. Lei... Non c'è nessun no, ma andiamo dunque, al dunque. Scaiola lo lasci stare dove sta. Ma Speroni stasera l'avete trattato come peggio non potevate. Ma io voglio parlare di Chiesa, non voglio parlare né di Speroni. Dopo, né tutto, di Scaiola, dopo questa introduzione lunghissima vuole parlare di Chiesa. Ma l'introduzione era necessaria perché... La telefonata di Saia, che è un povero matto. Oh, sì. Aspetti un attimo, aspetti Luigi, aspetti, sento un rumore, aspetta. Dico matto per dire poco, sì, adatto, ci vuole l'ambulanza, bravo. Ecco, bravo. È partita la prima ambulanza della stagione nuova. Ci vuole l'ambulanza, bravo, sì. Bravo Cruciani. Sì. L'ambulanza ci serve per dove si trova? Scusi, signor Luigi, dove si trova lei? Adesso vi dico, io mi trovo davanti al Quirinale. Davanti al Quirinale. Oh, bravo. Il Quirinale si trova a Roma. Sì. Rimanga lì in sereno. Fermo un attimo, c'è il traffico. Fermo un attimo. No, stia calmo. Fermo, non si muove. Fermo lì che arrivano. Siamo qui. Mancano 12-13 minuti. Poi andiamo a casa per oggi, caro Parenzo, in questa. Ma finiamo prima oggi. No, finiamo prima. È l'orario estivo che va dalle 18 alle 20:30. Ah, ottimo. Fino a venerdì. Te l'ho già spiegato all'inizio della trasmissione. 18, 20 e 30 fino a venerdì. Poi da lunedì prossimo riprendiamo l'orario abituale, perché non sono abituato a questo orario. 18, 20 e 30. Comunque, vabbè. Eravamo col signor Luigi da Venezia all'800 24 00 24. Concludo subito. Concluda, sì. Siccome sia lei che Parenzo siete delle persone, adesso scherzi a parte, veramente intelligenti. Vabbè, questo l'ha detto per la centesima volta, però Luigi. Allora, parliamo del concordato, Stato, Chiesa. Siamo arrivati al concordato, finalmente. No, è per questo che ho telefonato, chieda alla sua segreteria. Sì, non c'è bisogno che... No, la segreteria. Allora, dicevo questo, lei che è una persona intelligente. Lei è sempre davanti al Quirinale, sì. Uguale, sì, sempre davanti al Quirinale. Rimanga lì che arriva una macchina a portarla via. Aspetti, Parenzo, non faccia lo stronzo, stia a sentire. Ho detto molto questo. Bene, Mi stia a sentire, Parenzo, non faccia lo stronzo per fuori, ascolti e impari. Sì. Il concordato, impari soprattutto, sì. Il concordato, impari, esatto. Stato e Chiesa è stato un atto, sì, di reciproco e mutuo consenso tra la Chiesa e lo Stato fascista. Vabbè, lo sapevamo. Che allora serviva ad acquisire il consenso dello Stato, Città del Vaticano, Chiesa Cattolica nei confronti del fascismo. Vabbè, chiaro? Questo, sì, vabbè. Oggi che cos'è? Oggi un fatto che nasconde il cosiddetto reato di voto di scambio. Ma lei ci vuole massacrare, lei ci vuole far chiudere. No, non si preoccupi, lei è una persona intelligente e capisce perché parlo. Io mi firmo, mi sottoscrivo e mi assumo le mie responsabilità. Sì, aspetti, fermi. Il voto di scambio che cos'è? Lei mi insegna perché è professore. Ma dove stanno questi qua? Non sono arrivati ancora? No, lasci stare, non dica stronzate, Cruciani. Eccoli, stia lì tranquillo. Il voto lei di scambio pure a parlare, tra Stato e Chiesa consiste, io faccio un favore a te e tu dai il voto a me. Io do i privilegi a te e tu dai il voto a me. E il voto io a chi lo dà la Chiesa? Io faccio le a te, faccio pagare gli stronzi dei miei cittadini e tu fai i cazzi tuoi. Sì. Questo è il Vaticano. Io sono cattolico, credente, rispettoso, praticante, mentre... Parenzo, che fa lo stronzo di sinistra, non faccia le battute contro i gay, che sono stronzate. Parli di cose serie, parli del Vaticano. Lei mi dia retta, sono le 20:19. Parli di Saia perché si è messo d'accordo con Berlusconi, visto che lui è nato a Messina e Scilipote è nato a Barcellona, Pozzo di Gotto, dove è nato quel puttaniere di Fede. Per me che se che si è messo tutti insieme. Saia perché ha fatto il partito fascista. Lei è passato, da. Glielo chieda a Saia perché ha fatto il partito. Sì, glielo chiediamo. Bene, lei si fermi un attimo. Mi dia retta. Mi dia retta quando adesso l'ambulanza viene a prenderla per portarla via. Luigi, sì, il voto di scala. Sia sereno, comodo Parenzo. L'ambulanza la riservi per lei, stronzo. Luigi, si fermi un attimo, Stia quando sereno che fa una bella notte all'ospedale, amico mio. Quando arrivano, stia tranquillo, non succede niente, la portano via, qualche fanno controllo. Certamente. Poi è probabile che la trattengano, eh. Molto probabile. Però Mauro da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io volevo solo sono un po' emozionato, mi scusi, eh. Ma che emozionato, ha visto che è intervenuto, abbia pazienza. Perché non sono abituato a parlare alla radio. Ho capito, ma ha sentito ma è la sera dei matti stasera. Ma ha sentito chi è intervenuto fino adesso, non lo so. Sì, ho perso le gambe. Insomma, ci vuole poco per diventare degli intellettuali, degli statisti qua, cioè. Vabbè, senta, io volevo solo intervenire dicendo che secondo me Berlusconi, che si è sempre spacciato per un super manager, dovrebbe dimettersi. Ma no, ma Mauro, mi sta dicendo una cosa nuova. Scusi, le dico solo la mia motivazione, no? Sì. Poi ognuno la pensa come gli pare, non, sì. Non è, cioè, non su è questo che non c'è dubbio, ognuno la pensa come vuole. Non allora deve per forza condividere. Ah no, sì, quello per adesso. Nel mondo, immaginato da Saia, sì, ma insomma. Comunque. In tre anni di governo, se non mi sbaglio, questa è la terza finanziaria che fa, vado a memoria, Berlusconi non ha mai fatto una finanziaria contro il debito pubblico, come fece Prodi al primo anno, che poi fu mandato a casa, tutto qua. Quindi adesso, dopo tre anni, dopo aver fatto condoni e, e affari del genere, si rende conto che non è stato sufficiente per abbattere il debito pubblico, il vero problema del paese. Quindi per questo, siccome un manager commette degli errori, deve andare a casa come fanno tutti i manager delle grandi aziende. Tutto bene, qua. Grazie. Intanto la tua opinione però, Che vuole che dica? La discussione su Berlusconi deve andare a casa o non deve andare a casa, cioè, no. Ci saranno le elezioni, andrà a casa oppure cadrà prima per consunzione della maggioranza. La frase del giorno è certamente quella di Berlusconi, vedrete che in qualche modo sarà uno dei titoli dei giornali di domani, no? L'Italia c'è e ci sarà sempre, è un attacco, almeno così viene interpretato da tutti i giornali online, di Berlusconi a Bossi. Infatti Bossi che cosa aveva fatto? Ha invitato i militanti a prepararsi alla Padania in questo momento di crisi della nazione. Tra l'altro, Parenzo, secondo me la Lega gioca una partita abbastanza strana perché punta anche al tanto al caos, no? C'è l'obiettivo di puntare al caos, cioè quasi allo sfascio totale, no? La Lega mi sembra evidente sta provando a ritornare al suo vecchio amore, la secessione, quando anche qualche settimana fa Bossi ha parlato di nuovo della Padania, che sarebbe necessario dividere l'Italia per combattere la crisi. Sì. C'è questo dibattito dentro la Lega, questo è fuori di dubbio. Davide da Ferrara, buonasera. Buonasera. Veloce Davide, che siamo verso la conclusione. Perfetto, guardi, io prendo spunto per quanto riguarda il vostro ascoltatore che si voleva spendere in autostrada. Secondo me è una provocazione. Ma no. Sì, sì, è una provocazione. Beh, spero di sì, naturalmente. Però. Certo, perché le persone che non arrivano a fine mese si arrangiano. Si arrangiano e non pagano le tasse. Quindi cercano di arrangiarsi in questo modo. Ma chi è questo signore qui? No, scusi, Davide, lei dice... è un economista? Quindi io ritengo, ad esempio... Sì. Che il discorso del nostro presidente sia da tenere molto in considerazione. Ma quale presidente, scusi? Non hai un presidente tu, scusami. Napolitano? Sì, certo. Ah, ma su che cosa, per esempio? No, c'è il Presidente del Consiglio, c'è il Presidente della Repubblica, ci sono tanti presidenti in Italia. È vero, certo, ma il Presidente del Consiglio credo che abbia altri interessi. E che ne so, altri interessi rispetto a cosa? Ma qual è il discorso che dobbiamo prendere in considerazione di Napolitano, Davide? Che secondo me, se continuiamo a chiedere ovviamente a tutti di pagare delle tasse, la gente si arrangia in un'altra maniera. non si stende in autostrada. Vabbè. Grazie. Angelo da Milano, velocemente, no, non ho capito nulla. Angelo da Milano, buonasera. Eccomi qua, buonasera. Sì. Beh, devo dire che stasera è veramente uno zoo la sua trasmissione. Dunque cerchi di elevarsi se vuole, se vuole, no, sennò si adegui e va benissimo. Devo scendere il livello perché io sono rimasto molto molto scosso da questo signor Saia. Sì. Ho sentito la registrazione che voi avete mandato delle sue dichiarazioni farneticanti. Non allora, è registrazione, era in diretta, signor signora. Sì, no, ma prima mi sembra che avete mandato qualche cosa di registrato, sì, di suo, sì, no? Sì, sì. Dove lui proclamava una specie di pulizia etnica. Sì. Allora, ricordiamoci, va bene che la vostra è una trasmissione dove si ride e si scherza e questo va bene, però mi fa piacere di vedere che questa volta anche voi non avete molto scherzato, perché non c'è niente da scherzare, questo è veramente un personaggio pericoloso, bisogna ricordarsi di cosa è successo a Oslo qualche settimana fa, e è un brodo di cultura che esiste anche in Italia sicuramente, di persone che possono essere facilmente prese al laccio da queste farneticazioni. Bah. Lui poi ha detto anche, ma io non ho parlato di pulizia etnica, di mandare via gli stranieri, non è mai successo. No, mandare via gli stranieri ha parlato anche da... Anche, sì, appunto, però io volevo dire, nel Ruanda è successo, non nella Germania degli anni 30 è successo. Bravo. Quindi sono personaggi sui quali secondo me non bisogna scherzare e credo di interpretare l'opinione di molti degli ascoltatori. Concludo anche dicendo che siccome lui ha tirato in ballo Scilipoti, sì, e siccome so che voi lo ascoltate spesso Scilipoti, fategli la domanda, ma è vero che lei è stato invitato a diventare diretto presidente o non so cosa? Ma è cosa? Vero, non è che, certo che è vero. Cioè, è vero, ecco. E allora va bene così? Cioè che Scilipoti... Sì, se uno, che può, la... uno può invitare chiunque, e certo Scilipoti farebbe bene a dire non voglio avere nulla a che fare con questo, ecco, Saia, invece farebbe bene a smentire, un po' anche tergiversa. Vabbè. Mi risulta lui non, è mi quello, pare, non mi è pare un problema. Che il governo in questo sì, momento, non mi pare un problema mondiale. La ringrazio. Andiamo a Foggia, Lorenzo. Buonasera, volevo solo dire che mi accodo al signore di Milano e non sono, sì, d'accordo per una volta con Parenzo, quel signore Saia non dovrebbe andare in galera ma dovrebbe andare all'ospedale in un manicomio, perché non è possibile, tra lui e Scilipoti siamo... sta diventando una cosa pericolosa secondo me. Beh, adesso pericolosa secondo me, livello, secondo me è più comico che guardi, pericoloso, e comunque Scilipoti non guardi, è guardi, signor Cruciani, alcuni della Lega sono allo stesso livello, non vedete quello squilibrato di Bossi, cioè ne ha per tutti, insomma. Qua parliamo di un corruttore e un corrotto, Berlusconi e Bossi sono Berlusconi un po' meno, ma Bossi è uno squilibrato, cioè alcuni della Lega sono proprio squilibrati, stanno sullo stesso livello. Bene, ma, Lorenzo, grazie. Dobbiamo concludere con Edoardo dalla provincia di Firenze, velocemente. Edoardo, buonasera. Sì, io chiamavo per la polemica per cui si dice che bisogna far pagare l'ICI alla Chiesa. Sì, allora che ne pensa lei? Allora, io premetto, sono favorevole al pagamento dell'ICI su almeno alcuni immobili, ora non sta a me discutere allora? Su quali. Però dico che non è che questa che la Chiesa si sia autodesassata da sola, quindi mi fanno un po' ridere quelli che dicono ma la Chiesa non si è autodesassata da sola, sono stati i governi passati, anche questo, credo io, a volersi ingraziare la Chiesa stessa, anche certo, una parte del Stato. Va bene, parleremo domani, forse. Caro Parenzo, ci sentiamo per domani, sempre alle 18. La Zanzara, a domani. Ciao. Radio 24. La passione si sente.